L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Luciane, se tu fossi un immigrato io ti accetterei, se tu fossi là sul barcone noi te, non è che ti porterei a casa, ti farei lavorare, magari ti manderei alla zanzara a fare quello che fai, un lavoretto così, ma ti aiuterei a sopravvivere. Caro Parenzo, ben pensante dei miei stivali, state rovinando la società, imbecille che non sei altro, mi fai finire il ragionamento? Ma perché tu non ti fai i cazzi tuoi? Tutti emozionati, non solo per la foto del bambino, che ipocrisia assoluta, un'ipocrisia totale, assoluta, soprattutto perché quel bambino è morto non perché in Italia non lo vogliamo accogliere, perché probabilmente se fosse arrivato lo avremmo accolto, è un siriano che scappava dalla guerra, eccetera, eccetera, ma soprattutto scappava perché non è risolta la vicenda della guerra dell'ISIS, della guerra in Iraq, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui non c'entra niente l'accoglienza, non c'entra nulla, nulla. È proprio quello il problema. Ma non c'entra assolutamente nulla l'accoglienza, lo avremmo tranquillamente accolto. Perché ogni persona che uno salva con i rimpatri. Ma lo avremmo accolto se fosse arrivato, lo avremmo accolto. Il problema è che gli amici tuoi e tutta questa, gli amici miei, la Lega e questi altri in Italia, pensano ad esempio che salvare le vite umane nel mare non sia cosa buona e giusta. Ma sono una minoranza. Quella che si chiamava Mare Nostrum, che era una missione che aveva come unico obiettivo quello di salvare. Che banalità, è che un banalità. Fatto, non è una banalità. I fatti sono banali. Tutti ci dimenticheremo, tutti ci dimenticheremo di quella. Salvare le vite umane. Sì, vabbè, d'accordo, ma questa è solo una banalità. No, no, siamo, siamo, è politica, siamo la banalità Mare più totale. Nostrum aveva come unico obiettivo. Ma chi se ne frega quello... adesso? Vabbè, allora, di Mare Nostrum, ma adesso non è quello il punto. Dai. Parliamo del fatto che sono morti perché non sono stati salvati. Ma non c'entra niente. Quelli sono morti perché annegati, non perché sono stati buttati. Credo, sono annegati. Umane da salvare. Ma se non c'è, non è che è arrivato lì, l'abbiamo buttato in mare noi. Cioè, se è affondato questo, il barcone, è affondato. E infatti vanno salvati in mare, vanno pattugliate le coste per salvare sì. I scappa. Prendiamo questo tutti. Prendiamo tutti. Vanno fatti dei taxi, dei corridoi umanitari. I taxi. I taxi. Sì, assolutamente, assolutamente sì, deve ridere. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Mamma ma tu le hai viste quelle mamma migliaia di persone mia, che a piedi da Budapest vanno verso Vienna allora, a piedi con allora? La bandiera d'Europa. Ma questa è un'immagine di una grandezza assoluta. Ma andassero in Germania, prendessero in Germania, benissimo. Ma li prendessero in Germania. Libertà, a piedi vanno. Mamma piedi, mia che emozione! Piedi, mamma 170, mia che emozione! 170 km a piedi da che Budapest emozione, verso Vienna. Che emozione! Queste che emozione! Guarda, che guarda, non mentre, guarda di notte mentre tu chiami quei quattro stronzi razzisti di alcuni sindaci che vogliono mettere addirittura dei muri nelle loro microscopiche città dove non ci va nessuno. Questo succede. Sembri Donato da Varese, questo, così è. Sembri Donato da Varese. Accade. Sembri questo, Donato da Varese, oh. Ma non mi interessa, questo succede, hai capito? Sembri Donato da Varese. Sì, va bene, va bene. Ma ci siamo emozionati anche si sono emozionati anche per il Papa che va a cambiare le lenti da un ottico di Roma. Grande emozione a pomeriggio 5 dalla D'Urso. Senti che emozione, senti i cuori che battono. Potete immaginare la grande emozione, perché io avevo incontrato Monsignor il Santo Padre in San Pietro, però era stata una cosa molto aleatoria, molto così. Vedermi il Santo Padre vestito mamma di bianco, mia, guarda come avrei voluto essere al tuo posto. Vedete? Mamma mia, mamma mia, come volevo essere al tuo posto. Allora, io dico solo una cosa, con tutti i soldi che ha il Vaticano, che è uno stato molto ricco, diciamo, no? Lo IOR, eccetera, eccetera, le proprietà immobiliari, chi più ne ha più ne metta, è uno degli stati più ricchi del mondo, si può dire o no? Parenzo, sì, il Vaticano è molto ricco, eccetera. Ma sì, vabbè, ma Papa, so già cosa vorrei il Papa dire. Va la dall'ottico. Salvinata. No, la che Salvinata, che c'entra Salvini, non c'entra niente. Il no, Papa pensavo volessi dire ma non di c'entra... No, non c'entra niente, cosa. No, non c'entra nulla. Ma il Papa va dall'ottico e dice solo le lenti. Sì, certo, solo le lenti. Uno ha un problema agli occhi, non può andare dall'ottico. Dice, guarda che tu sei curioso, che difendi quella che mette i gatti nel freezer, perché questa cosa qui non me la scorderò mai per questa edizione. Difendi, certo, una, difendo, una vecchia, una signora che mette ma i gatti nel freezer e poi ti scandalizzi perché un signore che è anche Santo Padre non problema gli occhi. No, ma io non mi scandalizzo per questo. Se nella tua sei curioso? No, aspetta, no. Sei andato già avanti. Io non mi scandalizzo perché il Papa va dall'ottico. Mi scandalizzo perché va dall'ottico e dice voglio cambiare solo le lenti agli occhiali perché non voglio spendere. Dico cazzo, scusa, abbi pazienza. No, questa è propaganda pura. Perché non mi allora, per far muovere l'economia italiana, il Papa spende i soldi. Deve spendere i soldi ma in un ottico. Spenda un soldi. Spenda i soldi, si compri 500 occhiali, li regali ai profughi che non ci vedono, ai profughi che non ci vedono, che ci saranno pure i profughi orbi, no? Ci saranno quelli che arrivano qui e non ci vedono. Ci saranno quelli che gli mancano qualche no, che gli manca qualche cosa nella vista, eccetera. Alla diottria, quello che è, gli manca qualche grado, si dice. Allora, spenda i soldi, non rompa le balle con questa storia che non voglio spendere. Ma come non vuoi spendere? Ma sei uno stato, ma sei la persona più ricca del mondo. C'hai i soldi che ti escono dalle tasche. Che cos'è che vai dall'ottico e dici no, non voglio spendere. Non voglio spendere, voglio solo le lenti e non la cosa. Ma fattene 100 di occhiali, no? Con tutti i soldi che c'hai, così aiuti l'economia a muoversi, dai. Ma questo tizio qua all'ottico di Roma, che è l'uomo più fortunato del mondo, da oggi avrà aumentato il numero di clienti sicuramente, che dice? Mi ha detto che vuole cambiare solo le lenti. Ma perché? Sentiamo. E come padrone di casa gli ho dato il benvenuto, poi lui è venuto, io ho misurato la vista, li abbiamo controllato, poi dopo alla fine lui prende degli occhiali e mi li fa vedere. Io questi sono occhiali che io porto. Allora ha detto, siccome non voglio spendere, adoperiamo le stesse montature e ci cambiamo le lenti. Ha detto, santità, benissimo, perfetto. Abbiamo scelto gli occhiali più idonei, più leggeri, più comodi, perché lui, considerando che sono dei multifocali, perché sono occhiali un po' particolari, abbiamo scelto l'optimum che lui possa portare. Non voglio, mi fa impazzire questa cosa, non voglio spendere, perché proprio si vuole comunicare una, capito, il Papa povero, mentre povero non è. Ma ieri da te è intervenuto lì in onda, è intervenuto pure Venditti contro Esposito, ha detto delle cose contro Esposito, signor Venditti. No, conto, in realtà era molto, come dire, era quasi stupefatto che un assessore insultasse la sua Roma, no? La sua squadra. Ha cantato pure Roma, Roma. Sì, l'ha dedicata a Esposito, sì. Roma, Roma, Roma, core de sta città, unico grande amore di tanta e tanta gente che fai sospirare. Mi vengono quasi i brividi, però io adesso qui non posso diventare tifoso, è pura cronaca. Dai, che sei diventato romanista. No, chi è questo? Che è Parenzo che parla? Hai cambiato voce? Che hai fatto? Ho cambiato voce. Ah no, sembrava che avessi cambiato voce. No, no, sei diventato Donato da Varese improvvisamente. Come no? Ma perché Parenzo è uno sporco comunista di merda! Allora, Venditti, è dopo aver. Romanista! Dopo avere. Chi è? Dai, è l'abate questo, sì, ha cambiato voce. Mi sembrava un Parenzo diverso, trasformato in l'abate. Ha cambiato voce? No, aspetta un attimo, prova, aspetta, no, non mi sembra, forse un con. Oh, ci sei? Grande Antonello ieri. Grande, grandissimo, grandissimo. Roma, cantalo anche tu che sei interista. Roma, Roma, Roma. L'abate? Però. Vai, no, passami l'abate, passami l'abate. Eccoci. Canta Roma, Roma, Roma, dai. Canta, tu che sei interista, canta Roma, Roma, Roma, dai, cantalo. Lo sai, per un gol io darei la vita, la mia vita. Vai, fondo, vai. Quando lo so, sarà una partita infinita. Poi sono altri 10 minuti e poi amala, pazza impera amala. È una storia infinita che dura una vita. Pazza intera mala. Avete sentito il conduttore di In Onda, Tommaso Labate? Ciao, Gius. Ciao, caro. Che si esercita nell'inno dell'Inter. Non è che lo sappia proprio al massimo, eh? Forse non voleva no, cantarci tutta la strofa. Ma però Venditti ha detto anche che se fosse sindaco di Roma, Roma sarebbe Roma. Cioè, ha detto: io saprei governare Roma. Marino, per carità. Hai capito? Cioè, il sindaco è un'attitudine, è una passione. Se tu non ami la tua città e non ne vuoi fare la regina del mondo, e Roma lo è, mi pare che giocare con Roma, veramente, se fossi io il sindaco di Roma, ecco, vi assicuro che sarebbe Roma. Allora, uno mi scrive: il Papa non vuole comunicare di essere povero, ma che non si spende per il superfluo. Sì, d'accordo, per carità, va bene tutto. Però, ragazzi, qui bisogna far muovere l'economia. Dunque, se si spendono un po' di soldi dall'ottico a farsi un paio di occhiali nuovi. Ma poi il messaggio è esplicito: non voglio spendere per una cosa che non mi serve. Spendi, spendi, spendi, sei ricco, spendi. Oh, Marino punta sull'antifascismo. Dice che Roma è una città antinazista, antifascista, dunque ha sconfitto il nazismo e il fascismo, che non c'entra una mazza, e anche perché non è che Roma ha sconfitto il fascismo e il nazismo, cioè altri hanno sconfitto il fascismo e il nazismo, non Roma, e dunque sconfiggerà anche la mafia. Marino! La presenza delle persone in questa piazza dimostra ancora una volta che Roma è una città antifascista, antinazista e anche antimafiosa. Come ha cacciato il fascismo e il nazismo, da questa città verrà cacciata anche la mafia. O il profugo, quello che ha ucciso i due coniugi, che sembra aver ucciso i due coniugi, è stato accusato anche di violenza sessuale, visto, no? Sì, sì, come ha no. Violentato pure la signora anziana. Sì, no, certo. Torna d'attualità Buonanno, però no, forse no, la sodomizzazione in piazza, forse no, forse è troppo. Basta andare in un sex shop e si chiede una delle cose più importanti che hanno e lo fai sodomizzare, così magari la prossima volta ci pensa su, oppure basterebbe anche solo un manganello della vita. Una cosa contro tendenza: viva il traffico, perché c'ha una voce sex. La Zanzara. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Allora, Parenzo, Salvini è andato come previsto al centro di Mineo lì e ha detto, ha attaccato tutto il governo dicendo che sono loro che hanno ucciso, no? Che sono loro i responsabili delle morti nel Mediterraneo, Ma la cosa più vergognosa è... Che cos'è? Forse lo avrai visto, me lo immagino, il corretto che hanno fatto. Quale corretto? I militanti che hanno accolto la gazzarra, la passeggiata politica. Il corretto! Mamma, uno non può fare politica. Per te non può fare politica, non può andare a Mineo al centro. Lui sì, per te i suoi, come dire, no? I suoi luogotenenti sul posto che lo hanno. Ma scusa, quando ci sono delle stragi, i politici non vanno lì a Lampedusa a rompere le balle, ministro, a dire. Ministro Alfano, ministro scafista, con chi non salta Alfano. Succede dappertutto, chi non salta Alfano. Salvini, succede. Chi ha il governo è imbecille. Succede allo stadio, non quando sono morte, massacrate due persone. Fermo lì. E vai davanti a un centro e urli chi non salta Alfano è. Questa non è la politica. Evidentemente chi è il governo è un imbecille. Tra queste parti Renzi e Alfano non si facciano più vedere. Io ci tenuto per la quarta volta. Bisogna accogliere prima i profughi cristiani. Sicuramente io preferirei, se fossi al governo, accogliere coloro che arrivano da terre più vicine alla mia percultura, quindi accogliere prima profughi che scappano con cultura cristiana, secondo me potrebbe essere una scelta giusta. È un po' complicato distinguere tra profughi cristiani e non cristiani. Questa è incredibile. Bravo, cioè, prima accogliere i profughi cristiani. No, succede così, guarda, ma è difficile. Solo in mare, no? con la loro tattera, con la loro barchetta, sì, arriva la barca della Guardia Costiera, sì, sì. E dice: scusate, siete cristiani? Voi? Dice: no, non parlo italiano, non parlo italiano. Il rosario lo sapete dire, il Padre Nostro lo sapete dire, no, non parlo italiano. E si mettono a pregare in arabo. Dice: ah, no, allora va bene, e prendono e se ne vanno con la barca. Dice: no, va bene, allora siete arabi, prendono e se ne vanno via. Cioè, ma tu ti rendi conto? Questo è. Allora, succede anche in questa pazza Italia che un consigliere comunale a Porto Sant'Elpidio, un consigliere comunale di Fratelli d'Italia, non so se hai letto, Parenzo. Consigliere comunale vuole bruciare in piazza Cecil Chieng, parlamentare europeo del Partito Democratico, ex ministro dell'integrazione. Scrive sul suo profilo Facebook: raccolta firme per bruciarla viva in piazza dopo averla impalata su per il culo. Ti giuro, ha scritto così: raccolta firme per bruciarla viva in piazza dopo averla impalata su per il culo. Non sono razzista, scrive il signor Diomedi, sono italiano. Barichinizziamola. No, ma non il signore. Questo signore qui, hai detto bene prima, ma l'hai detto velocemente. Cosa? Non volutamente. È un consigliere comunale. Oh, bravo. Cioè è stato eletto, sì. Beh, eletto, certo. Con le preferenze. Sì, e beh, allora che vuol dire? Bravo. Allora? No, ma vuol dire che fa, chi ha messo quel nome fa schifo, quelle persone che hanno scritto. Vabbè, quel adesso nome non esagerare, quella... adesso che c'entra. Magari, magari quando l'hanno eletto non diceva queste cose, che vuol dire? Allora, comunque ha scritto anche varichinizziamola, che non capisco cosa vuol dire, che vuol dire sbianchiamola. Io proverei a chiamarlo questo tizio, che dici? Questo signor Diomedi. Signor Diomedi che vuole bruciare la chiesa. Ma so non che, risponderà. So che non vorresti parlarci tu, so che ti fa orrore questa cosa, ti fa schifo. Sì. Pronto? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno. Salve, Diomedi? Sì, sono io. Sono Cruciani, ciao amico mio. Come stai? Ah, ciao. Ciao, come stai amico mio? Turbato, certo. Ma che mi hai combinato? Vuoi bruciare la Chieng in piazza, amico? No, assolutamente. Ma quello è scritto, però, scusami. Adesso oggi ho tenuto una conferenza, a parte il fatto che comunque sia, sì. Dopo quel post sono susseguite tutta una serie di scuse che io ho dato. Sì. Non mi pare che ci siano scuse, però, scusami, Diomedi. Scusa, Diomedi, ma non mi pare che ci siano scuse, però. No, io ho ripostato quel post che avevo fatto, l'avevo ripostato 3 volte, aggiungendo sempre praticamente una serie di scuse per il quale comunque sia a sangue freddo e ovviamente. Era andato fuori di testa. Oggi ho tenuto una conferenza stampa. Sì, però scusa Diomedi, tu hai scritto raccolta firme per bruciarla viva in piazza. No, aspetta, io, fermo quello lì. Quello che ho scritto non vado a rinnegarlo perché l'ho scritto io. Benissimo. Per carità. Dopo, aspetta, hai anche aggiunto. Aspetta. Dopo averla impalata su per il culo, non sono razzista, sono italiano, varichinizziamola, che già è una variante interessante, perché varichinizziamola che significa? Tanti me lo hanno accostato sul fatto che la Chieng è di altro colore, io sinceramente il concetto di varichina l'avevo più che altro abbinato sul fatto di disinfettarsi su come la Chieng parla spesso, oppure era del popolo italiano. Era una disinfestazione dalla Chieng, dici, barichinizziamola. No, sul fatto che comunque sia lei ci colpevolizza che noi etnicizziamo troppo quello che sta succedendo in tutti i Italia. Però scusa, amico mio, ma veramente la vuoi bruciare in piazza viva? No, ma che stiamo adesso al di fuori del fatto della raccolta firme. Per quello che comunque sia c'è nel mio passato, ok? Per chi non lo sa, comunque sia nel mio passato ci sono anche stati dei lutti. Io ho avuto 5 anni fa la morte di un amico che purtroppo, in seguito ad un incidente stradale con un ragazzo extracomunitario è deceduto. Ma che cazzo c'entra con impalare la Chieng? Scusa? No, ma al di fuori, allora, io capisco che bisogna fare giornalismo. Aspetta un attimo, Diomedi, devi stare tranquillo, c'è Parenzo che ti vuole dire una cosa, aspetta un attimo. Fermi tutti, si fermi e non dica dica più niente. Qualunque cosa lei sta per dire o ha già detto troppo. Fossi in lei mi vergognerei la mattina quando si guarda allo specchio per quello che ha scritto e quello che ha detto. Non esistono attenuanti, i parenti, le cose, gli incidenti, non esiste niente di tutto quello che lei ha fatto, niente. Ha scritto una cosa di cui si deve soltanto vergognare. Solo questo. Però scusami Diomedi, Diomedi scusa un attimo, tu hai scritto anche, mettetevi le mani nei pantaloni e vedete se riuscite a trovare le vostre palle. No, cioè... questo era riferito nell'ambito del mio paese, alcune persone che mi avevano accusato senza dirmi in faccia determinate cose, non c'entra niente il grande Benito nazionale. È grande Benito? No, cioè, che cosa devo dire su quello? Deve dire niente. Apprezzo delle cose che ha fatto lui e comunque sia lo condanno per altre cose che ha fatto. Ah, apprezzi delle cose che ha fatto, cioè Benito è un grande statista, Benito Mussolini. Non ho detto assolutamente questo. Ma scusa, hai scritto grande Benito, che vuol dire? Diomedi, bisogna essere coerenti, sii coerente fino in fondo. Ma io sono coerente. E allora devi dire che tu sei un ammiratore di Mussolini. No, io comunque sia, come tanti, apprezzo quello che ha fatto lui, chiudo della storia, altri non lo apprezzano quello che ha fatto, io comunque sia, malgrado lo condanno per quello che è successo ai fini storici, però sì. Purtroppo, io mi riconosco in quella specie, in quel ramo politico, chiudo, che poi dopo si vuole attaccare, dirmi di vergognarmi per ma quello che ha fatto detto, di buono, che ha fatto di buono? Che ha fatto di buono Mussolini? E oltre che ho chiesto mille volte scusa, e sono 36 ore che chiedo scusa, l'ho detto anche oggi che mi vergogno per la crudeltà delle frasi che io ho scritto, ok? Poi dopo, se qualcuno vuole credere o non credere, perché io le ho scritte. Ma perché le hai scritte? Perché le hai scritte? Perché le hai scritte? Non può accettare tutto. Le ho scritte, io comunque sia, ho chiesto scusa, perché effettivamente mi sono reso conto la mattina che ho scritto una cazzata. E le ho lasciate ma perché hai detto prima 5 secondi fa? Perché se le avessi cancellate immediatamente ci sarebbe stato anche la codardia da parte mia, invece no, io le ho scritte e io mi devo assumere la responsabilità anche di sentirmi dire che sono uno stronzo, un fascista, un razzista, una merda. Adesso stai sbracando completamente, cioè hai scritto una cosa, scrivi che bisogna impalare, scrivi che bisogna bruciare, scrivi che bisogna varichinizzare una, hai detto sono un coglione, sono uno stronzo, sbagliato, tutto qui, finito. No, beh, per carità, assolutamente. Ma due secondi prima mi hai detto che confermavi tutto quello che avevi scritto? No, nel senso, confermo nel senso che è vero che ho scritto quelle cose, non che le confermo nel vero senso della parola che ho capito, vabbè. Diomedi, arrivederci, va, ciao. Cioè, uno scrive che vuole bruciare viva la Chienghe, cioè che la vuole impalare su per il culo, è una cosa chiara, cioè non è che scrive una cosa, come dire, no? Cioè, dopo che la Chienghe ha detto una cosa sul delitto giù in Sicilia, dopodiché sbraca completamente dicendo sì, sono uno stronzo, eccetera. Esalta Mussolini, ma questo consigliere comunale, ma io e te, se questo qua è consigliere comunale, cosa dovremmo essere, David? Noi siamo Nobel per la letteratura. Giornale Radio, ci sentiamo dopo. Amici miei, siamo al flop. La Zanzara. Non è una follia, stiamo morendo, testa di cazzo, stiamo... Dimmi che cazzo stai facendo per gli italiani, merda! Arezzo, cosa stai facendo per gli italiani? Cosa stai facendo per gli italiani? È quel malato di mente che chiama. Ma cosa fai tu per gli italiani ogni giorno? Cosa fai per gli italiani? Dillo a me che non c'è più Donato da Varese. Cosa fai ogni giorno per gli italiani? Cosa fai? Ma in modo cosa molto umile racconto il paese. Ecco, vabbè, adesso non esagerare. Adesso in modo molto umile provo a raccontare il paese da diversi. Senti media. Che prosopopea. Aspetta, senti, provo a raccontare il paese. Ma come te venuta fuori sta cazzata? Provo a raccontare. Me lo hai chiesto, però non è che ci penso da stamattina alle 7:30, ma ecco, diciamo, usando diversi media, provo a raccontare. David, dimmi, sì, caro, dimmi. Mi piacerebbe andare a fare in culo. Va bene, questa volta va bene. Hai esagerato stavolta, hai esagerato. Dai. Ho detto, mi hai chiesto, e io ti ho risposto. A me fanno ridere queste, per carità, il signor Monio Vadi è tuo amico, è simpatico. Molto. Sì, è molto amico, va bene, va bene. Stiamo tornando al nazismo. Vero? Dice. Hai visto la Ma polizia? Dai, beh, su, basta con scusami, queste cose, non ne posso più. Non ne posso più, dai, non ne posso più. Un momento, mettiamo in ordine. Ma tu lo le sai cose, che anche il governo israeliano marchiava le persone, ho letto da qualche parte. Come no, in fronte per identificarli per motivi di organizzazione, non mi ricordo. Come no, l'ho letto da qualche parte. Infatti, bravissimo, è accaduto. Accaduto, quei militari, certo, che lo hanno fatto sono stati sanzionati, ma è stato aperto un procedimento perché Israele non sono state... tutto da verificare, no? Tutto da verificare. Verifica un cazzo. Ma comunque, verificalo. Stiamo tornando al nazismo, è una cazzata. Stiamo tornando a un clima in cui è legittimo fare qualunque cosa contro i migranti. Vai ma a vedere per cosa? Cortesia, non discuto con ma te. È bastata una foto, è bastata una foto per far calare le braghe pure apparentemente anche alla Merkel o a Cameron o a Cameron. Vai a vedere oggi grande Cameron che oggi ha detto accogliamo i migranti. Vediamo tutte chiacchiere. Vai a vederti oggi per cortesia quello che ha fatto la polizia ungherese. Che ha fatto? Spruzzando in faccia a quella povera gente lo spray urticante. Vai a vederti. Ma dipende in che contesto. Vai, non c'è contesto. Vai a vedere il filmato. Vabbè, allora, ma perché non dichiariamo guerra all'Ungheria? Perché non dichiariamo guerra all'Ungheria? No, cioè, facciamo l'invasione dell'Ungheria. L'esercito. Il fatto che l'Ungheria sia un paese democratico è tutto da definire, a capire. Ah, non è un paese democratico. Usa metodi, mi pare che l'Europa stia prendendo l'Unione Europea stia prendendo provvedimenti contro l'Ungheria. Informati, vai a vedere, guarda. Adesso sentiamo, guarda. Toscani contro Gasparri della serie I grandi scontri televisivi questa mattina da Corà. Questa è una grandissima occasione per far avanzare il mondo, l'umanità, il senso sociale, il senso etico. Questa è una grandissima occasione. C'è chi lo sta capendo, persino la Merkel. L'ISIS che massacra i siriani è una grande occasione. L'ISIS che massacra i siriani e li fa scappare è una grande occasione. Le organizzazioni criminali di cui parlava Don Vinicio è una grande occasione. Si è contento lei nelle sue ville. Contento lei nelle sue ville. Toscani. Vai a fare un girettino. Ma lo cambi lei il mestiere. C'è l'ISIS che massacra questi popoli, in Libia li mandano in Italia per prostituire le donne somale. Lei questo vuole, dall'alto della sua ricchezza ed arroganza, dall'alto della sua ricchezza. Ma lei è un pagliaccio internazionale. Gasparri, per favore, ognuno qui faccia un selfie. Un pagliaccio internazionale, non l'avevo mai sentita questa cosa. Non possiamo andare avanti con Gasparri che dice sono centri di delinquenza i centri per gli immigrati, ma Roma è un centro di delinquenza, l'Italia è il paese della mafia, ragazzi avete amministrato voi per decenni, siamo diventati ridicoli nel mondo, all'infuori di poche eccezioni, Gasparri lascia parlare, ma lei non può insultare, Dio santo, fa il parlamentare ma dice un sacco di cazzate, no, dico cose giuste, da decenni che dici cazzate. Lei ha detto che è un'occasione storica il massacro. Dice la tua opinione come giusto che dica. Grande ritorno di Gasparri, televisione contro Toscani, lei dice un sacco di cazzate, questa è la Toscania, Gasparri, pagliaccio internazionale, cambi mestiere, eccetera, eccetera. E posso fare una piccola osservazione ai signori amicissimi della Rai, per carità, ma non ce l'hanno una telecamera da mandare invece di Skype a casa dei Toscani? Scusa, abbia pazienza. Caro Parezzo, bisogna dirle certe cose, no? Mandate una telecamera, che fate? Il collegamento Skype, Rai? E dai, su, e diciamolo, no? Andiamo con gli ascoltatori, va, 800240024. Ah no, un'altra cosa volevo dirvi. Ho letto da qualche parte che l'Expo ha bloccato i party a luci rosse. Sono state proibite le feste non ufficiali che si tenevano dopo la chiusura. Alcuni partecipanti a questi festini dicono, lo ammetto, ho fatto sesso in Expo. Party notturni, party, incontri notturni alle 2, alle 3 di notte dietro i padiglioni, una cosa meravigliosa. Cioè, quelli dell'Expo hanno chiuso l'unica cosa seria di questa manifestazione, cioè le feste dei ragazzi da mezzanotte in poi. E l'unica cosa seria che è uscita fuori da questa Expo, cioè il fatto che decine e decine di ragazzi organizzano delle feste private dopo mezzanotte, trombano dietro i padiglioni, trombano vicino a quella costruzione che è l'albero della vita, una cosa meravigliosa, si incontrano, scoppiano nuovi amori, nascono nuove relazioni, oppure semplicemente delle cose di sesso. E questi che cos'è che fanno? Bloccano le feste private. Perché blocchi le feste private? Dice che forse si era creato un po' di allegria di troppo, c'erano delle donne scosciate, forse prostituzione, ma ho capito, ma è una cosa meravigliosa, è l'unica cosa fondamentale di Expo. Cioè, da mi piace un mondo così, a me fa cagare, ma un mondo, ma così, un mondo così fa, sì, cagare, vabbè, di nuovo, fa cagare un mondo così. Questi qua dopo mezzanotte si divertono, e questi dell'Expo che fanno una delle poche cose serie la bloccano. Ma dai, lo sballo durava fino a... ma che durava fino all'alba? Si incontravano dietro i padiglioni qualcuno, poi quanti saranno stati, facevano all'amore, sesso, poi pare che alcuni si siano fidanzati seriamente, nascono gente che si sposa grazie all'Expo. Tutto questo finito? Dai, vabbè, andiamo a Torino. Aldo, vai. Buonasera. Buonasera, buonasera. Il vostro Luna Park è bellissimo, stupendo. Il Luna Park. Luna Park è una buona definizione. Credo che sia stato anche il titolo di una trasmissione televisiva, Parenzo. No, Luna Park. Sì, molto bello. Benvenuto, ed è pure gratis, visto che non ha comprato il gettone, per cui prego. Ma scusa, ma Luna Park è un bellissimo era... Luna Park, perché gratis. Si sente di tutto. Aspetta un attimo. Volevo fare sottoporre alla vostra... io parlo da chimico. Sottopongo chimico, alla vostra chimico. Illuminata come professione. Ali, come Ali il chimico, te lo ricordi? Esatto. Alchimico, alcune semplici considerazioni, sì. Poi lascio alla vostra illuminati ospiti, a voi così. Ma non c'è nessun ospite illuminato, e noi siamo dei poveri stronzi, per cui va bene tutto, Aldo. Comunque. Ecco, allora, prima domanda, prima considerazione semplice: come mai 900.000 che dovrebbero rientrare in Palestina, il premier Netanyahu ha dichiarato non entreranno mai, eppure penso che vogliono andare solo a casa loro. Prima considerazione. Seconda, e questi migranti e poi i rifugiati perché vengono in Europa? Vorrei ricordare che ci sono paesi ricchissimi, per esempio l'Unione Sovietica, i russi sono 10 volte più ricchi dell'Italia, 100 volte. Sì, ma lì non li accolgono. Hanno un rapporto, mi lasci parlare, sì, orografico, che voi sapete benissimo, vai, che cosa andiamo vuole. Andiamo al sodo, amico mio, vai. Ecco, io sono amico di tutti e di nessuno. Beh, voglio dire, dovrebbero essere indirizzate verso dove c'è tanta. Quindi io voglio dire, dovremmo spingere queste persone verso altre destinazioni, ad esempio in Russia. Sì. La Russia ha tante zone che dovrebbero essere popolate, un po' come si andava in Argentina nell'Ottocento. Vabbè, invece vengono in Occidente, qui vogliono andare in Germania. Vengono da Occidente. Poi le volevo chiedere alla considerazione del suo aiutante in campo, che è di religione ebraica, la dichiarazione del comandante della guardia iraniana, molto vicino all'Ayatollah, che ha dichiarato una cosa molto bella. Che cosa? Che la terza bomba, che la prossima bomba atomica non è la bomba atomica, perché i grandi non se la tireranno mai addosso. Che cos'è invece? Perché sono molto intelligenti, è il principio di Conrad Lorenz. Vabbè, allora dai, forza amico mio, forza tu. Ecco, useranno la bomba demografica, ecco, ed è un metodo classico. Vabbè, Aldo, arrivederci. Santi dalla provincia di Messina, vai. Ciao Cruciani. Ciao amico mio, dimmi. Niente, volevo collegare al discorso di ieri della prostituzione, quando con un colpo di pennello fantastico hai parlato sia di Bruce Dixon, del sesso orale, del cancro, fantastico, e poi appunto della prostituzione. Allora? Io mi trovo d'accordo con Parenzo, però non li definisco miserabili, li definisco poco virili, perché pagare una donna fondamentalmente è una cosa poco virile. Perché io penso poco che virile? Tu, non ho capito. Dai Peppe, tu che sei un macio, fondamentalmente non credo. Io non sono affatto un macio, amico mio, ti sbagli, odio questa definizione. Che significa macio? Un amante. Però ti volevo anche dimostrare una teoria che ha un mio amico sul perché è molto più conveniente andare con le prostitute che invece sbattersi per conquistare una donna. Sì. Nel senso che queste prostitute fondamentalmente aiutano le persone in crisi, perché se devono uscire con una donna, queste persone devono lavarsi la macchina perché devono andare a prendere, sono 15 euro. Ma io quando sono andato a prendere le persone non ho mai lavato la macchina in vita mia. C'è gente che lo fa. Ma vabbè, malati lo fanno, cioè. No. Parenzo, per esempio, fino a poco tempo fa non aveva nemmeno la macchina, per cui quando andava non andava nemmeno a prendere le persone con la macchina, gli appuntamenti, le ragazze, no? O sbaglio? Certo, ma andavo con il motorino, con la Vespa, con no, con quello nemmeno, perché non sapevi nemmeno guidarlo. Andavi col come taxi? No, l'ho sempre avuto fin da bambino. Andavi Vespa, col taxi? Quindi. Come andavi tu che non hai avuto la patente a 20 anni a rimorchiare? Come andavi col taxi? Col motorino, io avevo la Vespa 50 special. Vabbè, e quando non ce l'avevi? Che facevi col taxi? Ma guarda, le fidanzatine mi venivano a prendere a casa perché non ho cioè, mai. Cioè, ti facevi venire a prendere tu? Sì, certo, non ho mai considerato la macchina la prosecuzione del pene. Santi? Come allora molti di voi maschi. No, io no, io zero. Tu sì, anche se ma assolutamente no. Che sgasano con la macchina io? Come un corona qualunque. Ma sei impazzito? Sì, con quella macchina enorme che hai. Ma qua ho una... Che giri per Milano con la musica a tutto volume, con i finestrini abbassati, una ma roba che dici? Non ho mai fatto masculo. Ma non ho mai fatto una cosa in vita mia del genere, ma ti sbagli? Con quelle macchine enorme che hai. Ma ho bara, un SUV vecchissimo che non può nemmeno entrare al centro, perché... Quella bara con cui giri lì per dimostrare il tuo macismo. Io non ho mai avuto questo e giro a Roma con una Panda normale, bianca. Vabbè, ho capito, ognuno fa le sue scelte, va benissimo. Appunto, tu giri con quella macchina da macho con la musica a tutto volume e la musica che canta l'estate che avanza, lì gli 883, metti quelle robe vabbè, lì. Io Santi ci stava raccontando una cosa che secondo lui è più conveniente ma andare Santi, a prostitute che avere una ragazza. Vabbè, ma Santi è uno di questi maschi, come abbiamo detto, come ho detto più volte, no? Ma allora, no, Santi, al di là della macchina che c'è? Non ho capito. No, ho detto che ero d'accordo con Parenzo, che mi considero poco vivi, però stavo dicendo appunto, si deve lavare la macchina, si deve mettere la benzina, gli fanno il pieno, già sono 50 euro, devi portare la ragazza al ristorante, vuoi fare il figo, la porti al giapponese. Vabbè, ma questa è una vecchia teoria, costa meno una puttana di una ragazza che devi conquistare, dai. 120 euro, poi si finisce appunto, cioè... Un escort costa molto molto meno. Quindi, ma che c'entra? Sono due cose diverse, no? Cioè, ci sono persone che io conosco che pagano sia l'una che l'altra. Fermo lì. Ecco, è un bellissimo Luna Park perché si sente di tutto. La Zanzara. When you're done all your running, run to me. Allora, intanto Toscani fa scoppiare l'ennesima polemica in Veneto, questa volta contro il sindaco di Venezia Brugnaro, perché ieri interrogato da questi due signori qui presenti in diretta alla Zanzara, Cruciani e Parenzo, ha detto che Brugnaro, che cui non piace il Gay Pride, anche se non lo vieterà, ha un po' cambiato opinione rispetto a qualche mese fa, quando ci fu la polemica con Elton John, il sindaco di Venezia, sostiene però che gli fa schifo il Gay Pride. Allora, questi sono forti, perché anziché amministrare la città, voglio dire, questo si è appena insediato, deve, per farsi conoscere, anziché dire che so, mi occupo di gondole, mi occupo del ponte di Rialto, non lo so, no? Mi occupo della pavimentazione di San Marco, della Biennale. No, questi qui cosa fa appena eletto per farsi conoscere? Proibiscono i libri. Parla di Froci. Parla di Froci. Allora, siccome il tema è questo qui, invece c'è uno dove parlare con gli atti amministrativi, c'è la penalizzazione di Mestre il Mose, cosa farò? Beh, credo che il Mose, la vicenda del Mose, no, che non interessa a nessuno dei nostri ascoltatori, ma la vicenda del Mose sia più interessante del fatto se il Gay Pride si debba fare o non fare a Venezia, no? Sì, poi un sindaco, fa? Ma anche perché i Froci portano soldi. No, ma tra l'altro, infatti c'è tutta un'economia che gira attorno a questa. Ti opponi al Gay Pride, non ha senso. Allora, no? Ha senso che uno appena. No, l'ha fatto solo per farsi conoscere, perché sa perfettamente, perché nessuno lo conosceva, fino a tu conosci Brugnaro fino a prima. Ah no, adesso questo non ha bisogno di pubblicità. Ma non ha bisogno di pubblicità. Ho capito, dai. Ma gli vogliamo. Se uno diceva Cacciari ancora prima di fare il sindaco, sapeva chi era, no? Credo. Ma non credo che l'abbia fatto per pubblicità. E perché? No, ma credo. Adesso non so, sto ragionando. Vabbè, dovrebbero pensare, tu dici, più ad amministrare la città che ai libri dei Froci, ai libri gender, al Gay Pride, eccetera. E allora Toscani dice invece che chi fa affermazioni come quelle di Brugnaro in sostanza è un gay represso. Ecco, sì. Cioè, io la rendo in maniera più esplicita. Brugnaro, dice Toscani, in realtà ha desideri omosex. In sindaco di Venezia, una città che tu conosci e che probabilmente ami, sì, dice che Gay Pride gli fa schifo, che tutte quelle robe lì fanno schifo. Ma è un... Ma sai, tutti quelli che hanno tendenze omosessuali represse reagiscono così alle cose gay. Cioè tu dici che Brugnaro alla fine... Sì, tutti quelli che hanno un problema, cioè, no, io gay non li sopporto, vuol dire che hanno in fondo all'anima, al cuore, una paura di esserlo, non so io, ma essere in modo sbagliato. Poi dice anche che Salvini è peggio dei nazisti. Che fa Salvini? Che è nazista, che c'è? Vuoi essere diventato pure nazista? No, non insultare i nazisti, mamma mia. Cioè sono non più si può dopo 70 anni parlare così, dopo 70 anni, cioè si risvegliano dalla tomba, si risvegliano ma no, dalla non tomba, è nazista, dico. No, non è nazista, è peggio. Allora, abbiamo la soluzione finale sulla questione gay, sì, no, sulla questione cani congelati, Parenzo, attenzione. Come, cani o gatti erano? Scusa. Gatti, cani uguale. Allora, mi scrive il direttore sanitario del pronto soccorso veterinario di Lodi, di Lodi. Bene, il professore emerito Alessandro Zumbino, mi ha scritto bene. Una lunga lettera, grande ascoltatore della Zanzara, eccetera, eccetera. Allora, gli animali morti devono essere cremati per legge, non si possono seppellire in giardino neanche volendo. Vedi. Questo scrive. Prima affermazione. Se qualcuno lo fa è un discorso a parte. Per cremazione si intende prendere le carcasse e buttarle in un inceneritore. Capito? Anche se qualcuno, fanatici, paga fino a 500 euro per avere la cremazione singola e la restituzione delle ceneri in urna. Dunque lui dice pure, questo signore veterinario, che quelli che fanno cremare per mettere nell'urna il gatto, il cane, sono dei fanatici. Fanatici. Beh, no, non prende neanche in considerazione il surgelamento dell'animale. Aspetta. Fanno anche appositi funerali nei quali il proprietario assiste alla cremazione. Vabbè, questo lo sappiamo. La dialisi ai cani la facciamo anche in Italia. Negli USA la fanno anche il trapianto di reni ai gatti. In Italia tecnicamente la possiamo fare, ma c'è una questione etica per cui non si può sacrificare un gatto per salvarne un altro, eccetera, eccetera. In USA sono molto più pragmatici e un randaggio ha meno valore economico di un gatto. Vabbè, qui si dilunga sulla dialisi. Non si possono congelare gatti nel congelatore di casa. Attenzione, non si possono congelare gatti nel congelatore di casa per una questione di salute pubblica, ma i cadaveri vanno gestiti secondo le norme di legge. Quindi, io dico anche di salute, aggiungerei al professore, anche di salute mentale di chi lo fa, io aggiungerei. Quindi anche la vecchia che li congelava commetteva un'infrazione. La carne destinata ad alimentazione non è considerata cadavere perché macellata, quindi si può congelare con buona pace di tutti i vegani e animalisti del cazzo, aggiunge questo signor veterinario. Animalisti del cazzo, io non so se ho fatto bene a leggere, però non c'era scritto, non legga nome e cognome, li chiama così, animalisti del cazzo. Silvano da Bergamo, 800 24 00 24, fra poco grande collegamento, se lo prendiamo naturalmente, con il professore Luttuak. Beh, ci dirà la sua sulla Turchia, sugli immigrati, sul Papa, il professor Edward Luttuak. Silvano, vai. Sì, buonasera. L'hai detto prima, Cruciani, i froci portano soldi, per quello che tenete Parenzo. Ma Parenzo non è omosessuale, amico mio. Vabbè, ma, lo dice lui. Ma come lo dice lui? Ma scusa, poi non è un insulto, anche se fosse omosessuale, se ne vanterebbe. Chi è che crede che le ragazze lo devono prendere? Chi ci crede? Comunque io non l'ho chiamato per questo. Ma scusami, abbi pazienza. Allora, il coso, il signor Parenzo è eterosessuale, l'ha detto più volte, no? Per cui molto. Molto non è neanche corretto dire molto, è eterosessuale, punto. Vabbè, ma io non l'avevo chiamato per quello. Allora? Io avevo chiamato perché ho sentito che volevano impalare qualcuno. Io proporrei, visto che già siamo, impaliamo Parenzo, io mi offro volontario. Volevo sapere, lei metto i guanti da lavoro naturalmente, perché non vorrei beccarmi qualcuno. Lei sta bene, sì? Sì, sto benissimo. Ma anche in famiglia tutto a posto? Lei non si preoccupi. No, si chiedo preoccupi, per capire. Si preoccupi, cioè, solo di lei. Da quando lei è tornato dall'ospedale psichiatrico? E quando l'hanno accolta bene a casa? E quando siamo conciati così, grazie ai ben pensanti come lei, con l'immigrazione. Grazie ai ben pensanti come lei. Vabbè. Ho capito. Silvano, allora? Niente, allora mi... Ma tu vuoi impalare Parenzo? Vuoi impalare? Oh, come no, certo. Ma poi bisogna anche farle queste cose, non è che bisogna dirle, bisogna anche farle. Sì, no, ma visto che siamo già, qualcuno l'ha proposto, io proponevo di farlo con Parenzo. Ce lo togliamo dai piedi, che ormai ce lo troviamo da tutte le parti. Dappertutto. Anche a casa sua. Ce lo trovi, vieni a casa mia, vieni che ti aspetto. Silvano, guardi, verrei semplicemente per tirarla in guarda, potrei venire anch'io a cercarti a casa tua. Non ti scomodare. Comunque, Silvano, chi è che voleva impalare era un signore di Fratelli d'Italia, un consigliere comunale di Porto Sant'Elpidio, impalare e bruciare la Chieng. Qui. Ma lasciamo perdere la Chieng, abbiamo Parenzo, cosa stiamo a perdere? Sì, esatto. Francesco dalla provincia di Frosinone, vai Francesco. Sì, buonasera. Dimmi. Mi sente? Sì, ti sento Francesco, dimmi. Senta, guardi, ho ascoltato proprio l'ultima telefonata di questo signore qui, del signor Antone, no? Perché presumo che tutti quelli che la pensano come lui, della provincia di Bergamo, diciamo in generale del nord, sono mediamente culturalmente molto scarsi, cioè sono veramente degli ignoranti. Questi qui che seguono Salvini, no? Che Salvini è notoriamente. Cioè, tu stai dicendo che tutti quelli che seguono Salvini, che votano Salvini, militanti, sì, eccetera, sono eccetera, sono tutti ignoranti. Sì, spiego pure perché. Tu sei razzista, peggio dei razzisti. No, io dico era come quelli che dicevano quelli che votano Berlusconi sono ignoranti, ti ricordi? Parenzo, dicevano nel 94. Ma c'è un motivo. Quando Umberto Bossi, no? Visto dal balcone, io dal palco, che con quei famosi soldi, con quei famosi miliardi, no? Milioni di euro che avevano. Ma adesso che c'entra Bossi, scusa. No, voglio portare al ragionamento. Con cui avevano. Non c'è nessun ragionamento. Allora? Sì, avevano il mio stile, no? Questi qui applaudivano. Capisci? Se un politico per cui avevo dato il voto avesse detto una cosa del genere sul palco, io sarei andato lì di corsa a minarlo, ma di brutto, capisce? Questi qui applaudivano. Ecco qua. Va bene, Francesco, ciao. Allora, David, omaggio al professor Lutto, anche in diretta da Washington, non so dov'è. Grande dagli Stati... professore, no, come? Non è in Sicilia, professore, benvenuto, buonasera. Lamentevolmente non sono in Sicilia. Dove si trova? Negli Stati Uniti? Sono a Washington. Washington. Meraviglia. Senta, professore, lei pure si è emozionato, il cuore le grondava di lacrime, di sangue, anzi, per quell'immagine del bambino turco su una spiaggia, il bambino turco morto, bambino che viene da Kobane. Bambino siriano. Il bambino curdo morto. Sì, guarda, questo è il momento dove bisogna mettere di lato... Sì. Dichiarazioni di emotività, sentimentalismo e cominciare ad agire. Sì. Se l'Europa che non è riuscita ad affrontare la crisi economica, né la crisi finanziaria, né la crisi dei debiti, adesso non riesce a affrontare questa crisi, vuol dire che veramente è venuto il momento di ritornare al mercato comune e alla sovranità nazionale. Va bene. Perché? La prima cosa da fare è di mandare soldi ai giordani e ai campi di profughi in Giordania e in Turchia per migliorare le loro condizioni. Vabbè, ma già di vita ne mandiamo troppi, all'inizio. Insomma. La prima cosa. Poi? Che questo vuol dire solo mandare soldi. Poi? Questa è la parte facile. La seconda cosa è di separare, di ristorare la distinzione fondamentale fra il profugo che ha il diritto di asilo e il migrante economico che non ha nessun diritto. Cioè il migrante economico. Il migrante economico, la maggior parte ancora oggi non sono siriani. La maggior parte non sono profughi, sono migranti economici. E quelli che facciamo? Li mandiamo che via? Vengono dall'Iran, dalla Turchia stessa. Sì. Turchia è un paese che si atteggia come se fosse un paese normale. Invece? Dico che i migranti economici sono da identificare, che è facile, perché non sono siriani e non vengono in zone di guerra, e rimandarli a casa. Oh, che belle parole! Così che rimandandoli a casa non c'è più c'è la dissuasione, il migrante economico, mentre il profugo, che sono pochi, ha un diritto internazionale di asilo. Sì. All'inizio di questa crisi, ministri italiani, ministri del governo italiano, hanno deliberatamente offuscato la distinzione. C'è una specie di odio per la legalità o disprezzo per la legalità. Questo è il grande difetto. Senti, professore, di questa cultura, che la distinzione fra il profugo che ha diritto di asilo e di assistenza e il migrante economico, che in realtà a casa sua è un padroncino perché ha migliaia di dollari per pagare i trafficanti, il migrante economico, se non si rimandano a casa, non verranno 300.000 ma 3 milioni e poi 30 milioni. Sì. Senti, ma professore, quindi, scusa un attimo. Il profugo, per legge internazionale, ha diritto di asilo. Quel bambino non doveva morire, lui viene da Kobane, zona di guerra. Lui aveva il diritto di asilo, ma sarebbe stato tranquillamente accolto. Ma il governo turco è un governo criminale, cioè ci spedisce apposta. No, il governo turco è un governo che ogni giorno permette ai trafficanti di operare a Bodrum. Se tu vai a Bodrum, che del resto è un posto di vacanza come, non so, Rapallo, una cosa del genere, ci vogliono 3 minuti per identificare i trafficanti turchi, e non lo fanno, che mettono loro persone a morire su gonfiabili, non sono neanche, non sono, sono gonfiabili. E perché lo fanno? Perché lo fanno i turchi? Perché non controllano? Perché no, non... loro, i trafficanti lo fanno perché estorgono migliaia di dollari da queste persone. E il governo turco? E il governo? Il governo turco è troppo occupato a arrestare giornalisti. Che scrivono qualsiasi verità sul presidente Erdogan per avere la polizia per sorvegliare la costa di Bodrum, che sono pochi chilometri. Senti, professore, io voglio capire una cosa. Mantenere ordine pubblico a Bodrum, e loro deliberatamente non lo fanno perché è il partito che speriamo non sarà più al governo, è un partito islamista che crede profondamente nel fatto che se mandano abbastanza musulmani l'Europa diventerà musulmana. Finisce che ha ragione Donato da Varese. Senta, professore, ma l'Italia è veramente succube del Papa? Cioè il Papa che vuole accogliere... cioè noi siamo... Guarda, era sul tuo programma, credo. Sì. All'inizio di questa tragica vicenda che è costata la vita di migliaia di persone, ho detto che il Papa extracomunitario va a Lampedusa e invita tutti a venire in Italia. Sì. Bene, come se io adesso le mie gambe posteriori e invito tutti a andare in Danimarca. Sì. Bene, adesso il fatto che questo la sua dichiarazione, questa grande figura bianca, fa questa dichiarazione, è stata ripetuta, il film clip, il clip di vedere il Papa invitarli è stata ripetuta migliaia di volte, clip, capito, in tutte le televisioni dell'Africa occidentale. Sì. Dunque il Papa, e questo ha provocato il Papa il è colpevole di queste morti anche indirettamente. No, il Papa è colpevole di irresponsabilità. Vabbè, sì, appunto. Il migrante a lui ha offuscato, come hanno fatto i ministri italiani, dicendo questa povera gente ha fatto spot. Che fugge dalla guerra e dalla fame. Sì. Bene, la guerra ti dà il diritto internazionale di asilo. Sì. Mentre la volontà di migliorare la tua posizione economica non ti dà nessun diritto. Oh, finalmente. Come migrante economico devi metterti in fila. Sì. I paesi hanno i vari sistemi di immigrazione, eccetera. C'è la sovranità dei paesi. Il paese è sovrano di fronte al migrante economico. Sì. Mentre di fronte al profugo deve dare, c'è l'obbligo dell'asilo. Allora, fermo, professore. Parenzo, ma una volta il professore aveva fatto una grandissima... è la nostra linea guida, in sostanza, la mia almeno, no? Beh, quella... ma io sono, non posso che... sono ma quella di colpire i barconi, quella di colpire i barconi. No, io però dico al professor Ludwig che come me è ebreo, abbiamo due generazioni diverse, io ho 39 anni, no? Gli voglio dire questo all'amico professor Ludwig... a me alcune immagini di quello che sta facendo il governo ungherese mi ricorda troppo, non la Shoah, che è una roba unica nella storia. Se vuoi guardare a immagini, parla di immagini e di filmati e così via. Se vuoi invece pensare, devi pensare al principio. Il principio è che il profugo, questo bambino, è morto per il fatto che c'è stata completa commistione, confusione, offuscazione fra il diritto di asilo di questo bambino. E perché gli è stato negato di diritto? Ma dal Canada, il Canada lo ha negato. È inondato dai migranti economici. Sì, ma il Canada, prendetevela col Canada, il Canada ha negato l'ingresso a questo bambino. Cioè i genitori, almeno secondo quello che racconta. Caro mio, prima di tutto loro sono usciti dalla Siria, sono entrati nella Repubblica Turca. Secondo la legge internazionale la Repubblica Turca era obbligata di dare asilo politico a questo bambino. Il governo turco invece preferisce di mandare i profughi in Europa. Vabbè, professore, questa è la loro violazione. Cioè, se guarda, ci sono sempre mille scuse per ignorare la legge. Mille scuse. Il Papa prima di tutto, perché dice che la carità cristiana è più importante che la legge. Ti assicuro che quando tu ignori la legge muoiono gente. Il bambino è morto fondamentalmente perché o si segue la luce della legge o si va nell'anarchia, nel caos e la morte del bambino. Tra l'altro il Papa oggi, professor Luttua, che è andato da un ottico a Roma, ieri anzi, a cambiare le sue lenti e ha detto non voglio spendere. Ha fatto un atto di pauperismo, cambio solo gli occhiali, non la montatura, non voglio spendere. Noi ci siamo permessi di dire, beh, insomma, per far muovere un po' di economia, spendesse pure qualche soldo per mettere. No, guarda, io non voglio commentare, l'unico mio interesse del Papa è su questo singolo episodio che lui è andato di Lampedusa, nel territorio della Repubblica Italiana per invitare i migranti economici dall'Africa di venire vergogna, in vergogna, vergogna. Non ha detto, no, è una totale vergogna, perché lui non ha detto il profugo ha diritto di asilo per legge internazionale. Organizziamoci, non lasciamo che muoiano in mare, facciamo allora oggi è molto facile fare cose concrete, prima di tutto mandare soldi ai campi. Senti professore, però ti voglio chiedere una... Sì, ho capito, questo... ma questo l'abbiamo detto. Senti, in questi campi mancano di tutto. Senti, se un'ultima... tu hai migliori condizioni in questi campi, la gente è meno disperata e possono fare cose meno disastrose come quello di buttarsi su questo pericolosissimo cammino. Parenzo, vogliamo chiedere qualcosa al professore su questi insegnanti italiani che lui ama moltissimo, i professori italiani delle scuole, quelli che hanno usato la parola deportazione. Esatto, molti hanno utilizzato la parola deportazione perché lei forse non lo sa, sono stati regolarizzati alcuni insegnanti italiani precari, professore. Assunti, eccetera, dopo tanti anni, e però si rifiutano di spostarsi, cioè non vogliono spostarsi, che so, dalla Sicilia fino al Piemonte. Ci deportano. Ecco, ci professor, ma guarda, dipende. Guarda, io ho due regole in questa cosa. E quali sono? I siciliani naturalmente hanno il diritto di stare in Sicilia perché. Beh, no, professore, come scusi. Ma gli altri italiani, i continentali, sono tutti uguali. E non esiste questo fatto nel oggi viviamo in un mondo globalizzato. Quindi se tu non sei disposto a muoverti, sei condannato all'impoverimento, di rimanere povero e passivo e non contribuire a niente. Ma questi dicono... Oggi c'è gente che per lavorare deve andare in California, deve andare in Hong Kong, devono andare da tutte le parti per poter lavorare. Ci sono, io ero in Kazakhstan recentemente, ci sono italiani che lavorano in Kazakhstan. E questi non si vogliono spostare globale, nemmeno di 200 km. Devono muovere. Lo so, muovono il culo allora, muovono il culo. Perché i siciliani... No, scusami, se tu vuoi lavorare devi muoverti nel mondo attuale. Ma perché i siciliani devono stare in Sicilia, scusa? Quando il declino va in Texas, quando il petrolio in Texas è debole, lascia il Texas, vai in Ohio. Se non sei disposto a muoverti, sei condannato alla povertà. Vabbè, professore, grazie, a presto, mi raccomando. Mi rispetti. In forma, professore. Prima, Cruciani, i froci portano soldi, per quello che tenete pareti. La Zanzara. Quando la chiudi questa trasmissione? Allora, mai. Mette l'anima in pace, però non si può sentire più, dai, se può essere. Mamma mia. Andiamo a Bergamo dal signor Aziz. 800 24 00 24. Vai Aziz. Salve, buonasera. Dimmi, di dove sei tu? Rosani, Marocco. Marocco, solito Aziz che ogni tanto chiama, signor Aziz. Sì. Vai. Ieri avete parlato di gay repressi, oggi parleremo di profughi repressi. Profughi, tipo che vuol Salvini, dire? Sì, serviti sempre coi profughi. Avete mai provato la fame voi, che parlate così di no, profughi? No, non ho mai provato la fame. Ha mai provato a dormire sotto i bombardamenti? No. Non sapeva no. Quando capitava il missile. Per fortuna no. Allora ringrazio Dio per questo dono. Sì, ringrazio ogni giorno, amico certo. Mio. Non ti preoccupare, ringrazio. Un'altra cosa. Ringrazio chi voglio, oggi... chi voglio ogni giorno. Fa bene a ringraziare. Siamo privilegiati, ma questo non c'entra nulla, amico mio. Siamo privilegiati qui. Viviamo rispetto ad altri, siamo privilegiati. Allora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo vergognarci di questo privilegio? No, non bisogna vergognarsi, bisogna portare rispetto alle vite umane. Ma che vuol dire? Tutti portiamo rispetto alle vite umane. Dopodiché... No, non mi sembra di come parlare di profughi, non mi sembra. Vabbè, non porto rispetto per le vite umane. Hai ragione, hai deciso me, tu. Secondo me non lo fa. Non secondo lo me Parenzo avrà qualcosa da insegnarle su questo argomento. Beh, ma mi insegnerà un sacco di cose nella vita, Parenzo. Allora, la seconda cosa, se permettete, oggi Salvini è andato a Mineo. Sì. Secondo me lui ha la soluzione per il problema. Ha detto che la maggioranza erano nigeriani. La Nigeria sta benissimo, un paese ricco. Bisogna andare lì a chiedergli quali infrastrutture gli servono. Sì. Secondo me dovete dare retta, perché l'hanno fatto quel che hanno fatto in Tanzania. Hanno investito 400.000 euro nei diamanti. Infatti il popolo di Tanzania non arrivano qua. Sì, la battuta sulla Tanzania l'ho capita, non si l'ho capita. Poi sì. Per quanto riguarda il mister Ludwig, quando lo sento parlare sembra avere la soluzione a tutti i problemi del mondo. Se lo mandiamo a Marte troverà l'acqua di sicuro. Poi? Vi saluto, buona continuazione. No, tutto qua. Ciao. Grande lezione di Aziz. Partiamo subito, non dire cazzate. Partiamo subito. Voi siete su, parlate solo di sentimenti, di emozioni. Tu tratti male i profughi. Devi soffrire come loro. Non hai provato cosa significa stare sotto le bombe. Non c'è cose che non c'entrano una mazza. Abbiamo sentito pochi minuti fa una lezione di grande realismo da parte del professor Ludwig, il quale diceva: i profughi economici, quelli che vengono qui. Vabbè, perché ma lascia stare Ludwig, quel bambino veniva da sotto le ma questo bombe che c'entra? A far sventolare la bandiera dei valori occidentali di cui vi riempite la bocca. Andava omaggiato, respinto dal Canada. Che vergogna! Allora prenditela col Canada. Portate al mondo quella foto perché tutti si debbano vergognare. Ma io non mi vergogno per niente, perché tu ti vergogni? Tu ti ma vergogni? Io un po' mi vergogno di questo occidente che lascia soli quei poveri curdi di Kobane a combattere contro l'Italia gole dell'ISIS. Ah, adesso bisogna fare la guerra all'ISIS. Sei come Salvini che dice che bisogna bombardare l'ISIS, allora bisogna fare la guerra all'ISIS. Io sono per fare la guerra all'ISIS, meno male. Così come si è fatta la guerra al fascismo, come no? Tipi da zanzara. Tipi da zanzara. Donato Varese, se non sbaglio il mitologico Donato da Varese, salve, o no? Salve, sì, sono io, dovrei essere io. Dimmi Donato, dimmi. Allora, io voglio dire una cosa, vorrei avere almeno un'oretta, ma mi accontento anche di qualche minuto. Beh, un'oretta adesso, non esageriamo, ti accontenti di qualche... Se glielo dai a quell'animale che è a fianco, non so perché non dovrei meditarmi un'oretta, non lo so. Tu in quale parte del mondo c'è scritto che a quel coglione che è a fianco devi dare ragionamento a me, poi se va pur sulla setta a raccontare cazzate, va bene. io amo i miei connazionali, a me non interessa un cazzo dell'Islam che viene a impadronirsi della nostra città, non interessa. Allora quella guerra che è accaduta lì in Iran, ci sono dei ragazzini che sono messi a scarabocchiare su un muro per dire ad Assad, stai attento che fra poco qua viene verrebbe su giù, è nato un Assad, che ti voglio dire. Allora, gli estremisti islamici stanno provocando guerre per far catapultare adesso nell'Europa. Che c'entra questo però, scusami? C'entra, scusami, c'entra! La Parietti deve andare nei paesi islamici, lì deve andare, perché noi Parietti, noi Parietti, del cazzo, in questo frangente di storia pericolosissimo, noi Parietti non servono un cazzo, non servono un cazzo, non servono un cazzo. Scusa, come facciamo a mandare via la Parietti? Abbi pazienza. No, bisognerebbe invitarla di prendersi quei quattro soldi che è riuscita a guadagnare in Italia gli dai e andarsi nei paesi islamici. Per capire, ma non c'è nulla da capire, la follia non si può capire, si può solo non è tu solo stronzo, non è una follia, stiamo morendo, testa di cazzo, stiamo, ma come stiamo morendo, cazzo stai facendo per gli italiani, merda, che cazzo stai facendo per gli italiani. Io penso una cosa, io ogni tanto ti vedo sulla 7, ti vedo sulla 7, ma perché hai perso la testa, cazzo fai, fai una trasmissione, che vuol dire, cosa fai per gli italiani, gli italiani, è morto in guerra. No, volevo dirti che volevo dire morto in aspetta guerra. Donato, stai calmo. Ma che c'entra Parenzo? Allora, che c'entra di... Parenzo? Che c'entra Parenzo? Ah, perché Parenzo è uno sporco comunista di merda! È un lungo schifoso che non serve! Non serve! Allora, Parenzo. Ma cosa Parenzo vuol dire? Non vuol dire niente! Allora, Parenzo con quattro bottiglioni lì, formato Tartagnan, Tartagnan ridotto, come si chiama lì? Come quel porco di Maastricht! Come si chiama quella merda con i baffetti? Come cazzo si chiama? Ma Parenzo chi è? Aiutami! No, poverino, ma è uno psicologo. Quello che presenta Matrix, chi è quell'urido? Chi è quell'urido? Lurido. E dopo arriva Telese. E poi arriva Telese. Chi è quel D'Artagnan? Che ti vuoi di formato minore? Chi è? Dimmi chi è Telese, si chiama Telese. Quel comunista di merda con quelle risate da fallo confrontare dopo con Luca. Tipi da zanzara. Allora io mi ero perso questa cosa, Luca. Il conduttore di Maastricht. Il conduttore di Maastricht. Il D'Artagnan con i baffetti. Non so che ha detto, oppure un ciccione, non lo so che. Ma dobbiamo interrogarci su questi i nazi zanzaristi. Come mai? Quanti sono? Adesso la idea è già nazista. Perché questo li attrai tutti? È già nazista questo, è stato già battezzato nazista, dai, su. No, nazi zanzaristi. Ma dai, su. Vedo gli italiani! Prima gli italiani! Cosa fai per gli italiani? Chissà cosa fa lui per gli italiani. Samuele, provincia di Pisa, vai. Guarda che te lo scateno contro, ti scateno contro Donato. Se vuoi ti facciamo il duello Telese-Donato da Varese. Beh, sarebbe meraviglioso. Ma in qualunque momento, Donato, no, tu Non mi solleticare. Enrico che ancora ce l'ha col cacciatore. Ancora ce l'ha col cacciatore di orsi. Vai, vai Samuele, vai. Luciano, buonasera. Senti, io volevo rispondere al tipo che l'ha mandato l'email dicendo non si può sotterrare animali nel giardino, ma chi gliel'ha detto che io non posso sotterrare cosa mi pare nel mio giardino che è proprietà privata mia? Ma non lo so, secondo il veterinario che ci ha scritto ha detto che non si possono sotterrare animali per terra, cioè nel suo giardino, secondo la legge, magari si può invece, lei che ci dice? No, invece è una cazzata, perché io ho avuto un cane per 13 anni che poverino quando è morto abbiamo chiesto al veterinario se si poteva sotterrare, ha detto basta che sia proprietà privata vostra e quindi potete sotterrare cosa vi pare. Basta che sia? Va bene. Basta che sia proprietà privata vostra, il giardino è nostro, di conseguenza potevamo sotterrarlo. Quindi non è vero che non si può per legge sotterrare il cane. Ma adesso non lo so, questo qua. Lei comunque ha sotterrato il cane nel suo giardino. Ma certo, sì, certo, non gli ho fatto nessuna cerimonia, niente, semplicemente ho fatto la buca e ci sei messo il cane. Ma poi ci pensi, è anche meglio, no? Cioè poi diventa robaccia, i vermi lo mangiano, rifanno il terreno. Cioè dovremmo sempre far così, perché bruciarlo e buttarlo via? Ma comunque un cane gli è voluto bene, perché bruciarlo e metterlo in mezzo alle carcasse? Dico male, Cruciani? Ma no, ma lei può fare quello che vuole col cane, secondo me. Lo può sotterrare. Basta non metterlo in freezer, con i surgelati. tirati ai sofficini, mamma mia. Lei può fare quello che vuole, lei può fare quello che vuole. Claudio da Torino, vai Claudio. Eccomi qua. Dimmi. Buongiorno a tutti, buongiorno. Ciao Claudio. Non mi ricordo. Vai, dimmi, Telese, dimmi. Sì, Telese, senti, ma io mi domando, io passo le giornate a rispondere a quelle persone che mi chiedono perché continuo ad ascoltarti. Io non capisco il tuo sarcasmo, da dove riesci a tirarlo fuori. Ti considero uno dei giornalisti più intelligenti della radio e poi tiri fuori delle puttanate che non so come fanno a venirti fuori. Ma tu la riascolti la tua trasmissione quando hai finito di farla, alla sera quando vai a casa, oppure cancelli tutto e va bene così? Dimmi. Volevo capire se sì, tu ma vai nel concreto, perché... vai nel concreto. Ma nel amico. Concreto ti domando, ma tu sei la persona che concede libertà assoluta a tutti, ma poi riesce ad essere sarcastico in modo insopportabile con chi si innamora di un animale domestico. Ma che cazzo te ne frega a te di che cosa fa chi ha un animale domestico e ci convive per 15 anni? Ma qual è la ragione per cui tu devi insultarli? Ma appena chiamato un tizio da Pisa dicendo che ha sepolto il cane nel giardino, ho detto ognuno fa quello che vuole, che se lo vuole incorniciare in balsamà, ma che cazzo te ne frega, posso te? Pigliarlo per ma il culo o no? Ho il diritto di pigliarlo per il culo, oppure mi devi dire tu su che cosa ma devo pigliare? Devi prendere per il culo chiunque. Io piglio per il culo chi mi pare. Devi prendere per il culo chi no, c'è il diritto di selezione, chi ti pare, ma sii coerente, perché che vuol dire la coerenza? Ma che vuol dire ma non ho capito che vuol dire la coerenza. Non posso pigliare per il culo chi crema il cane e vuole certo tenersi le ceneri del cane, ma o no? Ma non puoi pensare, non puoi assolutamente pensare di essere così sarcastico. Ah, non posso, persone, mi devi dare l'autorizzazione tu, mi devi dare tu l'autorizzazione a essere sarcastico. Ma io non ti do nessuna autorizzazione, e soprattutto, no, ma il permesso dell'oggetto del sarcasmo deve venire da te, cioè su questo non si può fare quello che ti pare, allora? Ma io spero e mi auguro, che tu riesca a vergognarti dopo esserti riascoltato più volte. Ma perché? Ma vergognarsi di che? Di cosa? Ogni persona ha una propria sensibilità e tu devi, non perché sei un conduttore televisivo, ma perché sei semplicemente un essere umano, devi avere la capacità di capirla questa sensibilità, non essere così sarcastico e ironico, perché tanto se ci sono persone che sono così coglione da mettersi il cane in frigo e possiamo trovarci d'accordo, non puoi pensare di essere capito... tu così coglione da giudicarla in modo così duro. Non ho capito, non a parte sei, in modo non vedo qual è la a ragione. Parte... Io ho telefonato Claudio, ma devi stare tranquillo, devi... per insultarti, e mi hanno passato la telefonata. Forse probabilmente ti diverte sentire le persone che ti insultano. Ma devi stare, ma devi stare calmo, tranquillo. Allora, ma io sono, non sei né calmo né tranquillo. Prima cosa, allora, non è questione di insulto o non insulto. Io ho il diritto di fare ironia su quello che mi pare. Naturalmente. E allora, appunto, se tu lo di a me questo diritto. Infatti, che ti ho lasciato parlare quanto ti pare. Qual è il problema? Non ho capito. Dunque, io faccio ironia sul fatto, come abbiamo fatto ironia sui bevitori di piscio, abbiamo fatto ironia su tante cose, faccio ironia su chi vuole attaccarsi l'orma del cane. Perché fai la figura del cretino, questo è il problema. Ma questo, secondo te, non andare oltre il limite perché fai la figura del cretino. Ma il limite di cosa? Poi, se ti piace fare la figura del cretino, contento. Se secondo te è normale e non si può fare ironia sul fatto che uno vuole l'impronta del proprio cane, del proprio gatto incorniciata, e allora si può fare ironia, si può fare tutta l'ironia che allora? Vuoi, tu sei bravissimo a farlo, allora? Ma non eccedere, perché poi tutto è il limite, e poi non a quel eccedere. Punto cadi nell'insulto becero. Non chi eccedere. Non ha la minima sensibilità di comprendere i sentimenti e le emozioni degli altri. Nelle ultime due giornate ho la sensazione che tu questa sensibilità te la sia dimenticata a casa. Se tu la prendi e te la porti con te, forse probabilmente non vai oltre quel limite che da due giorni a questa parte stai superando. Va bene, grazie professore, grazie maestro, ciao. Sei un terrorista radiofonico, è una verità. La Zanzara. Io spero e mi auguro che tu riesca a vergognarti dopo esserti riascoltato più volte dopo aver detto quelle cose. Buonasera Cruciani, allora anch'io sono una congelatrice di gatti. Allora, un perfetto ospite di molte trasmissioni televisive che parlano di immigrati è sicuramente il deputato della fu scelta civica, adesso sciolta civica, Librandi, che è un imprenditore molto ricco di Saronno. il quale spesso si siede in varie trasmissioni semplicemente per essere oggetto di attacchi da parte della Lega, da parte di esponenti di Forza Italia, che ne so, la Santanchè, ma anche da parte della gente comune che è lì nelle trasmissioni di Del Debbio a gridare contro l'uomo che vuole accogliere gli immigrati, che vuole dare lavoro agli immigrati, che dice che la criminalità non è un'emergenza, eccetera eccetera. Ieri sera un altro esempio: la gente contro i brandi, grande format televisivo. Noi dobbiamo stare in guerra e voi fate i bravi, li fate dire vergognati, i brandi, ti devi vergognare. Certo, naturalmente. Che cosa subite voi? Che cosa subite? Che cosa subiamo? Voi? Dalla mattina alla sera queste extracomunitarie che non possiamo uscire, non possiamo fare, non possiamo parlare. E lui parla di buonismo, ma portateli a casa tua, i brandi ce l'ho con te. Certo. Hai capito? Mi senti? Ho capito. Ce l'ho capito. Con te, sì. Portateli in casa. Non sapevo tua, che sei bravo, che risolvi i problemi tuoi. Sei un napoletano leghista. Ma, ma tu lo sai quanti italiani sono immigrati negli ultimi 10 anni? Però non so, mi viene in mente che il telegiornale fa vedere un nero che salva una signora nella metropolitana. Assolutamente mi sì. Mi viene in mente di un'altra persona che non è italiana che si mette, davanti a una cassiera perché gli stanno sparando, si fa sparare al posto di qua. Io credo che con queste persone bisogna cominciare a parlare. Noi non parliamo con queste persone. Mi sembra di ricordare quei cartelli che ci sono, che c'erano in Germania quando gli italiani facevano gli immigrati, mio nonno, il tuo nonno, italiani andavano a lavorare là. E c'era scritto lavoravano, hai capito? Che c'era scritto: qui non possono entrare gli italiani. La folla che grida buffone, buffone, ancora. Cioè, volevo salutare i brandi, sei un grande, sì, va bene, l'economia va bene, protesta e basta. Grazie per te, per il tuo governo. Beh, andiamo bene. Noi stiamo facendo la fame. Cioè, va bene, lei sta facendo. Non si direbbe. Cioè, non tu si quanto direbbe. Prendi al mese? Però vediamo io, quanto prendi i brandi. No, 16.000 euro. È vero? Bravo, bravo. Mi guadagno da lavorare facendo l'imprenditore, capito? Buffone, buffone, buffone. La cosa stupenda, Telese, è che a un certo punto il conduttore, che non so chi sia in questo periodo, che sostituisce Del Debbio, dice: no, il grande Brindisi. Brindisi, sì. Dice: il coro no, il coro no. Ma come il coro no? Ce l'hai portati apposta quelli là, hai costruito tutto apposta per il coro e adesso dici il coro no. Almeno risparmiaci questa cosa, no? È tutto meraviglioso, è tutto stupendo, è tutto costruito per mettere la piazza sobillata contro uno che dice delle parole più o meno normali. Gli immigrati siamo come noi quando andavamo in America, eccetera eccetera. Per carità, si può attaccare i brandi, ma è tutto costruito per la piazza contro i brandi. No, però il coro no. Ma come il coro no? Hai portato apposta a far coro? Ma dai, su questo tu non puoi. Brandi è un ospite fantastico. Io l'ho avuto un paio. Riesce a litigare con tutti, è il numero uno. Mi raccomando, non dire una parola contro Mediaset, che altrimenti succede un casino. No, ma dalla vostra parte ha un format che è dialogico, polemico. E come ho capito, tu, ma no, è uno. Non è che dire una cosa nascosta. Ma non può dire. Poi Brindisi è un gentleman, Brindisi come James Bond che si aggira in uno studio che è un'arena. Ma va capito? Bene, d'accordo, ma non puoi dire il coro no, dai. Io ho scoperto questa cosa fantastica. Che hai detto? Non si capisce. Non si capisce. Ho scoperto questa cosa fantastica da Parenzo, di te che giri col sub priapistico sentendo gli 883. Ma questa è tutta una cazzata di Parenzo, io non sento. Mi piacciono moltissimo gli 883, non li sento regolarmente con il finestrino abbassato perché non sento la musica con il finestrino abbassato e non giro col SUV, anzi odio le macchine. Ma quando mai? Odio le macchine, le prendo il meno possibile. Gianluca da Roma, vai Gianluca. Che macchina hai, Gianluca? Vai. Buonasera a tutti, a voi e agli spettatori. Volevo fare solo una piccola osservazione. Senti quelli della trasmissione. Volevo fare una piccola promessa. Ma tu puoi dire quello che vuoi, dire quello che vuoi, dimmi. No, vabbè. Come io seguo tantissimo la Zanzara in macchina, però quando sono a casa, la metto a casa ho i bambini piccoli, purtroppo devo spingere perché ci sono sempre tante parolacce. Ma dipende dai giorni. Un'affermazione se si potesse evitare delle volte. Ma guarda che dipende dai giorni, è una trasmissione vera, nella vita normale. Lo so, però però le famiglie non possono seguirla, quello è il disormato. Ma questa qua è una vecchia questione, le assicuro che c'è un sacco di gente che conosco che se ne fotte di queste cose, perché, come dire, la volgarità non è solo in una parola sguaiata, non è solo qualche volta nel turpiloquio, non è solo in un vaffanculo, è in tantissime cose nella vita, per cui anche questa puttanata per cui uno in macchina non può stare a sentire la zanzara perché altrimenti i figli sentono cazzo, ma che volgarità, mentre poi guardano in televisione delle volgarità enormi o tutti i giorni hanno a che fare con volgarità inaudite, mi sembra veramente una cosa ridicola, Gianluca, veramente ridicola. Però detto questo, lei può fare quello che vuole, vabbè, che bambini piccoli, ce l'ho quattro, ma lei può fare quello che vuole, ma insegna, che non è che quelli là dicono oddio hanno detto cazzo, cazzo lo sentiranno dai genitori, dagli amici, cioè lo sentiranno molto presto nella vita la parola cazzo, che al massimo quello che noi diciamo, certo ogni tanto parliamo di sesso in maniera esplicita, lì capisco che uno può, vabbè, solo ho fatto solo questo piccolo appunto perché, ma lei può fare tutti gli appunti, più gente, lei può fare tutti gli appunti che vuole. Ma ringrazio, buona serata, ciao, ciao. Matteo da Roma, vai Matteo. Ciao Giuseppe, dimmi caro, dimmi. Ero già intervenuto una volta con quel grande personaggio di Oliviero Toscani in cui io dissi levate Ierdino come l'avvocato Covelli, no? Sì. E vorrei ribadirlo anche per quel cazzone di Telese che spalta, ragazzi, è veramente stupendo, sai che non fa ridere nessuno, è geniale invitarlo, che è talmente scemo che proprio non si batte. Sì, però parla, parla col senza auricolare, perché mi sa che è l'auricolare. Senza auricolare, caro. Ok, vai, dimmi, allora... Precisamente. Allora, ragazzi, è una cosa fantastica che hai invitato Telese. Cioè, un uomo che è riuscito a arrivare dove è arrivato lui con il nulla è un genio. Poi si è messo da solo, ha fallito col giornale, non c'è. Vabbè, adesso stai parlando di cose vecchie. Ma come di cose, sai bene pure te, stupendo. Ma ognuno fa l'esperienza che fa, alcune vanno bene, altre no, altre vanno male. Un'esperienza triste come la sua è degna di grandi risate. Poi fa delle battute ridicole. Vabbè, abbiamo capito. Abbiamo capito che non ti piace Telese. Abbiamo capito che non ti piace. Ma volevo sapere, secondo te tra 10 anni raggiunge il peso di Ferrara? Chiedi a lui direttamente, vuoi raggiungere il peso di Ferrara tra 10 anni, Luca? No, anche prima, io non mi nego nulla, non sono frustratino come te, capisci? Grandissimo, sentilo, veramente stupendo, ragazzi. Non vedevi l'ora di in tutto questo, hai detto che non fa ridere e che diventerà come Ferrara, però una cosa concreta su una cosa che ha detto non me la dici. No, te l'ho detta la cosa concreta, però non voglio andare troppo sul serio, perché comunque la zanzara a me mi piace vederla così, poco seriamente, capisci? È così bello sentire Telese che parla dopo aver fatto fallire qualsiasi cosa, ma quanto fai di share con Matri? Ma che te frega? Vuoi la media esatta? Ma dai, ma ragazzi, ma chi se ne frega di queste cose? E poi scusa, quando ha detto cretina alla Marcegaglia da voi? Ma questo è successo 6 anni fa, amico mio, ma chi se ne frega? È successo 6 anni fa, ma che ridi? Perché ridi così? Perché ridi così? Perché ridi così? Perché ti ho detto che mi fate ridere, mi fa ridere Telese, che ti devo dire? Ti fa ridere Telese? Con questo baffetto da spardiero, come diceva Gianfranco D'Angelo. Ti ricordi in drive-in? Sì, come no, certo. Telese poteva essere un personaggio di drive-in, no? Insieme a... Era il mio sogno! Ci stava! Sarei venuto pure io insieme a Telese a fare il personaggio di drive-in. Ma poi pubblico, l'esperienza di pubblico... Tu potevi fare il venditore di fiammiferi a drive-in, ma no? Io lo faccio il venditore di fiammiferi, per questo sono così bravo al telefono. Vabbè ragazzi, se non avete nient'altro da dirvi io passerei ad altro, che dici? Comunque è simpatico. Che fai nella vita? Vendo fuffa. Che vuol dire vendi fuffa? Ecco perché sei un imprenditore. Vendo fuffa. Che vuol dire vendi fuffa? Dai su, non fare. L'impalpabile, l'aria, ciò che compri e non esiste. Cioè? Questo ragazzi dovete ragionarci un po', piano piano ci potete arrivare anche voi, che c'è. Senti, stai tranquillo, dimmi che cosa fai nella vita invece di dire stronzate. Vendo fuffa, che vuol dire vendo fuffa? Cioè, che fai? Vendi... Dicendo stronzate guadagno soldi. Ma questo in realtà riguarda me. È il nostro quello, sogno, quello, per questo quello, sogno. Quello sono io. Tu... Non puoi essere l'unico. No, ma non sono sicuramente l'unico. Parla meglio però, più vicino al microfono, altrimenti non ti sentiamo. Certamente non sono l'unico, ma sono curioso di sapere quello che fai. Siccome dici che guadagni un sacco di soldi vendendo fuffa, che tipo di fuffa vendi? Vabbè, ciao. Il peggio di Radio Padania, ma hai rotto le scatole adesso, via. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera. Allora, in realtà questo non è il peggio di Radio Padania, perché oggi c'è stato a Radio Padania un incontro mitico tra Sammy Varin e Vladimir Luxuria. Da urlo. Padania bella. Si può essere tranquillamente, quotidianamente migranti, ma non mi parlo, non parlo dei migranti, degli immigrati, ma migranti del sesso, il sesso liquido. Cioè, non è un po' esagerata sta roba del sesso liquido? Io sono trans, non diventerò mai etero. Il sindaco che di Padova è etero e non diventerà mai gay. Cioè, io direi una, posso dire una cosa, rilassiamoci un attimo, eh. E qui secondo me c'è un allarmismo, già la gente c'ha 30.000 problemi. Cioè, giustamente vuole dire Luxuria, non è che il sesso sta diventando, la distinzione tra i sessi si sta spegnendo, è una stronzata colossale questa cosa qua. Grande, cioè, Vladimir, non saremo non saremo invasi dai gay. Ecco, no, il mondo non diventerà omosessuale come teme qualcuno. Questa è la sostanza. Varin. Ci fa paura e anche un po' ribrezzo a noi etero vedere delle scene terribili e vari gay pride, dei signori anche di una certa età che sculettano con il cazzino fuori, eccetera, e poi magari questi vanno a chiedere un bambino in affidamento. Sali Padania. Poi una rivelazione: a Via Bellerio c'erano più gay che all'Arcigay. Non so se parla di Via Bellerio oggi o di Via Bellerio del passato. Che hanno fatto? Un Repulisti? Allora, che hanno fatto? Si iscrivono meno gay? Caccia oltre il fiume. Qui Via Bellerio c'erano. Io non ci credo, eh. Lo so, io non vedo e non credo. Qui in Via Bellerio ci sono stati più gay e lesbiche che nell'Arcigay, probabilmente. Quindi non abbiamo assolutamente nessun problema a dirlo. Cioè, capito, ci sono stati più gay che all'Arcigay. Io mi ricordo di Los Padanos, che erano i gay padani una volta. Si è vociferato, eh? Ma la conclusione è di un ascoltatore. La natura ha fatto il pene per la vagina, non ha fatto il pene per lo sfintere. Se poi c'è, facciano pure, ma non li insegnano ai ragazzi. Beh, su questo ci sarebbe da discutere, eh? Cioè, non è vero che la natura ha fatto il pene per la vagina e non per lo sfinter. Non è così, perché altrimenti, vabbè, ma lui lo sa, altrimenti non esisterebbero certe pratiche che sono, come dire, certe bibliche, ma soprattutto non esisterebbero certe cose che sono fatte anche dagli eterosessuali, il sesso anale, eccetera eccetera. Per cui, amico mio, non è vero, il pene non è fatto solo per la vagina. Padania bella e libera, guardava. Ciao Cusciani, buona giornata, ti voglio bene. Ciao. La Zanzara. Ormai è tutto degradato ormai. Allora ragazzi, a proposito di sfruttatori, di prostitute, ma chi è che sta parlando? Eccomi, sono qua. Ma chi era che stava parlando? Enrico, lo sai, il solito casinaro. Ah, è tuo figlio. Ma tuo figlio si è veramente preoccupato per la questione dell'orso? Mamma mia, ogni volta dice: ma quel signore è davvero così cattivo? Ma passamelo un attimo, dai. Lo chiamo? Dai, passami Enrico. Passami Enrico, dai. Enrico, chiamato non a caso Enrico, figlio di Laura Berlinguer e di Luca Telese, non a caso chiamato Enrico. È vero che si è arrabbiato con quel signore che spara gli orsi? Dillo. Non è incazzato! Oh! È stupendo il figlio. A proposito delle parolacce dei bambini, Enrico Telese, figlio di Luca Telese. No, non mi fare tutte le genealogie. Ma perché? Che ti vergogni? Scusa, non ho capito. Ma sembra che sia Enrico per la sua identità, non per chi. Vabbè, lascia perdere, tanto l'ho già detto prima quando stavi chiamando tuo figlio. Comunque, Enrico ha detto che è incazzato per aver sentito un signore l'altro giorno alla Zanzara. Che ha raccontato la sua esperienza di cacciatore illegale di orsi in Albania, anche descrivendo in maniera dettagliata come si va a cacciare un orso e perché viene l'adrenalina a sparare in mezzo agli occhi. Ma spiegami, perché ti ha colpito tanto quel racconto, Enrico? Passami sto figlio, dai. Perché mi sembra strano che illegalmente arriva un tizio con fucile a pompa, lo punta un orso di 3,5 metri, cose così, insomma. Cioè, come ti sembra strano? Ti è sembrato tu falso, dici? Mi sembra ingiusto. No, poi ma... dimmi, con fucile a pompa dirà che non è l'arma ideale, anche se già è una cosa cretina. Io ci andrei col Kalashnikov. No, beh, adesso questa è interessante la cosa. Cioè, e secondo il film... fucile a pompa a 7 colpi. Beh, che ci fai? È un esperto di armi eccezionale. Col fucile a pompa che ci fai? È meglio Kalashnikov. Non ha tutti i torti, forse. Ma tuo figlio non è che è un provetto cacciatore? Ti piacerebbe andare a caccia, Enrico? Non molto. Cioè, chi quel racconto lì ti ha fatto schifo perché moriva un orso o semplicemente perché non era credibile? Anche perché c'è chi lo fa per mangiare, ha ragione, e c'è chi lo fa per divertimento ed è stronzo. Vabbè, insomma. Ma guarda, capito, che, no, ma guarda che sono pensieri molto più profondi di un sacco di gente, non solo di un sacco di gente che ci chiama, ma di un sacco di gente che invitiamo. Cioè, stiamo parlando di un bambino alla fine di quanti anni ha? 8, 9 anni? 9 anni, ma sta dicendo delle cose profondissime. Innanzitutto ha fatto una come dire, anche una distinzione tra il Kalashnikov e il fucile a pompa. Secondo, dice, se uno va a caccia per mangiare va bene, se uno va a caccia per divertirsi no. E poi... E infatti non c'era antipatico quel cacciatore di cinghiali, ma quello lì, fagli risentire un pezzo, quel tono così di gioco. Non ma quale? Più. Quale? Ah, quello no, il cacciatore di orsi. Ma là, quello sentiva l'adrenalina di colpire un orso e vedere abbattuto un orso. E vederlo morire. Ma io... strano. Io pensavo che fosse che Enrico, pensavo che ti avesse colpito la morte dell'orso, cioè l'orso morto, un bambino. Invece a te dell'orso morto non te ne frega niente, mi sembra di capire, o no? No, mi ha colpito che sto qui illegalmente col fucile a pompa, si addentra, che ne so, nella giungla a caccia di orso, e quando si trova davanti un bestione di 3,44 metri. Oh mio Dio, questo è bello grosso. Hai capito? Enrico, il figlio di Telese, numero uno. Questa roba qui vale tutta la trasmissione di oggi. Allora, questa è meglio che non la fai sentire però a Enrico, Enrico? Allora, no, un ascoltatore mi chiama e mi racconta la sua esperienza. Durante le mie 3 settimane di ferie, dopo un anno di lavoro straordinari, sabati lavorativi e turni notturni, ho deciso di fare una capatina nella vicina Austria e passare una giornata al Welcome, noto locale benessere vicino a Villach, per vedere come funziona quello che in Italia non potrà mai esserci. 53 euro di ingresso, in cui sono compresi pantofole, asciugamani, accappatoio, pranzo e cena buffet, bibite free, 2 alcolici, piscina, sauna, idromassaggio, solarium, docce, cinema, armadietto e cassette di sicurezza. Mi cambio, entro in sala, il paradiso. Una cinquantina di ragazze in media 25 anni, nude, in topless o senza slip. La regola del locale è che almeno un pezzo deve essere tolto. Queste ragazze girano nel locale, sedute sui divani, oppure sono sulle sdraio. Le vai a trovare sui divani o vengono loro a salutarti, si chiacchiera, ci si conosce, ti raccontano di loro e di come funziona il locale, si fanno accarezzare, toccare e cercano senza insistere, in maniera esagerata, di portarti in camera al prezzo di 70 euro per mezz'ora. Tutto avviene nella maniera più disinvolta, senza imbarazzo e senza la sensazione che stai commettendo qualche reato. Vabbè, ci mancherebbe pure. Prima di parlare i bigotti dovrebbero provare... e poi commentare cose che non hanno mai visto. Meglio questo che la gente per strada. Nelle stanze adibite alle eventuali prestazioni sessuali, doccia, lenzuola pulita, aria condizionata, musica in sottofondo, cameriere nei corridoi che in continuazione puliscono le stanze dove sono svolte le prestazioni. Esco verso mezzanotte e non mi sono sentito affatto sfruttatore miserabile, come dicono Parenzo, come dicono Liguori, eccetera eccetera. Non mi sono sentito un brutto in cerca di figa, anzi, tra i clienti la maggior parte avevano dai 30 ai 50 anni e tutti di bella presenza. Vabbè ragazzi, andiamo in provincia di Livorno. Dario, 800 24 00 24, via. Ciao a tutti. Vai, dimmi. Io volevo parlare di prostituzione giapponese. Come giapponese? Che vuol dire prostituzione, sì, giapponese? Io vado spesso in Giappone e conosco bene la prostituzione giapponese, quindi volevo confidarmi con voi e parlare alla popolazione per far capire un po' come funziona. Vai, parla alla popolazione, parla a tutta l'Italia, dimmi. Perché è un posto molto lontano, esotico, quindi non, sì, non c'è bisogno di andare in Giappone. Tu immagino che sei andato in Giappone per altri motivi. Sì, per lavoro, eccetera, eccetera. Vabbè, no, allora... si scoprono dei racconti interessanti. Per esempio, in Giappone hanno una grande voglia di perversioni particolari. Per esempio, c'è gente che paga delle prostitute, che poi non so nemmeno se si possono chiamare così, che devono pulire le orecchie dei clienti con il cotton fioc. E loro si siedono sulle ginocchia di queste prostitute, le puniscono le orecchie. Oppure ci sono altre che si mettono questi pigiami, accarezzano la loro testa, perché i giapponesi sono molto stressati. Oppure c'è... Cioè tu dici non c'è la semplice prestazione sessuale, dici? Sì, c'è, però i giapponesi cercano anche altre cose. Per esempio, molto tempo fa... Cioè non mi dire che qualcuno paga per farsi accarezzare la testa? Certo, sì, certo, come no? Vabbè, ma siamo veramente al top assoluto. Perché sono stressati, hanno la moglie e i figli a casa, però usciti dal lavoro siccome fanno degli orari... Ma ci stai raccontando una cazzata, dai, non è possibile... No, è vero, ma perché devi negargli questa libertà, Giuseppe? Ognuno, no, ci sono... Ma ho capito, ma non voglio negare questa libertà. Voglio essere accarezzati, ma solo se c'è consumazione di atto sessuale, ma Giuseppe... No, vabbè, ma uno è malato se paga per farsi accarezzare la testa, scusa. Sono un po' particolari. Si sa, ma il top secondo me è il body massage, o comunque il body massage esiste dappertutto, dai, su, sì, però c'è anche, sono fissato anche un po' con il prostate massage, lì mi piace molto, anche parecchio. E si mette su queste sedie con il buco e poi partono le dita un po' dappertutto, insomma, eccetera. Vabbè, eccetera. Ci stai dicendo che sono specializzati nella prostituzione originale, nella prostituzione un po' diversa dalle altre, no? Sì, la cosa che mi ha colpito di più, ora purtroppo sono stati aboliti tutti, non ci sono più, adesso sono passati di moda più che aboliti, c'erano queste persone che andavano in questi sexy shop, sceglievano il DVD, oppure la donna e niente, tipo peep show, si mettevano lì e si masturbavano in maniera così particolare, si facevano anche aiutare da delle prostitute. Questo è molto interessante. Il Giappone è il paese in cui esisteva una specie di gara di masturbazione, una cosa di questo tipo, cioè esistono dei giochi pazzeschi. Addirittura ho visto quest'estate un servizio dove ci sono due che si passano uno scarafaggio da una cannuccia all'altra, una cosa tremenda. No, da una cannuccia all'altra in bocca. Che schifo, lo so, Enrico, è uno schifo, sì. A questo punto però voglio da Enrico, figlio di Telese, l'inno della Roma, perché so che è tifoso della Roma. Enrico, sei tifoso della Roma? Enrico, vai. Sei tifoso della Roma, Enrico? Abbonato. Sei abbonato alla Roma, lo sai l'inno della Roma? Non molto. Cioè quello di Venditti, non lo sai? Non lo sai vai. Quello di Venditti? Roma, Roma. Roma, Roma. Non lo sai? Che... Non lo sai. Ma intanto tu di che sei? Della Juve? No, peggio, Enrico. Della no, Lazio, peggio. Della Lazio, Enrico. Bella Juve peggio. Comunque la Juve a 0 punti non succedeva da 120 anni. Stai godendo, stai godendo. Sì. Sì, stai godendo pure tu. Come sei, a 9 anni già godi per la Juve a 0 punti, a 50 che fai? Vai a picchiare, vai a sprangare qualcuno fuori dallo stadio, che fai? Vabbè, a proposito di Esposito, dell'assessore romano che ha fatto quello che ha fatto. Quel genio. Orfini. Penso che io sono milanista e quindi forse sono la persona sbagliata per rispondere. Credo che nel calcio ci sta anche lo sfottò. Se avviene in un contesto scherzoso come quello in cui l'ha detto Esposito, tutto può diventare, salvo che è un caso politico. In questa città abbiamo tanti problemi da risolvere, mi sembra che l'ultimo dei nostri problemi siano le battute calcistiche, le considerazioni calcistiche dell'assessore Esposito. Sì, però Orfini non c'entra il problema, che il calcio non è solo il calcio, cioè il calcio non è solo scherzo, eccetera. Il calcio è la vita, cioè il calcio è quello di cui si nutrono quotidianamente centinaia di migliaia di persone, e quello fa l'assessore a Roma, non è che fa l'assessore a Moncalieri, non fa l'assessore a Imola, dove del calcio probabilmente non gliene frega niente, o comunque se gliene frega non ne fanno una ragione di Stato. A Roma è una ragione di Stato, dai. Allora, Paolo Cento, detto, com'è che era detto Paolo Cento, non mi ricordo? Erpiotta è il presidente Roma Club Montecitorio, dice: mi auguro che Esposito chieda scusa. Io mi auguro che l'assessore Esposito chieda scusa, perché lei è pronto a ospitarlo in curva? No. Come no? No, io in curva, io Esposito in curva non ce lo voglio, anche perché sarebbe difficile farlo entrare. No, Esposito. Lo travisate. No, Esposito chieda scuse ai romani. Vabbè, dai ragazzi, Eugenio da Ferrara. Sì, buonasera. Dimmi. Un intervento molto semplice. Samuele da Pisa ci dice che ha seppellito il cane in giardino con la benedizione del veterinario. Sì. Si sono sbagliati tutti e due. Ci sono delle leggi sull'igiene pubblica che vietano assolutamente questo. Perché io posso essere, faccio un esempio, proprietario di un giardinetto di 2 metri quadri, mia proprietà, e ci seppellisco un elefante. Oppure ci seppellisco il mio alano. Dice di aver avuto l'autorizzazione, però. Vabbè, gliel'avrà data in via confidenziale, confidando che non lo venisse a dire per radio, ma ci ha fatto una pessima figura. Si figuri se lui lo seppellisse, per esempio, troppo in superficie, che di notte arrivano frotte di topi e infestano il quartiere e portano le malattie che portano. Oppure lo seppellisce troppo in profondità e la decomposizione va a inquinare la falda. Oppure io ho 20 cani, li seppellisco tutti nel mio giardino. No, ma infatti per non può, fortuna no, il legislatore. Ma no, ma non può aver avuto un'autorizzazione ufficiale il signore di prima, dai. Su. Ma assolutamente, quindi è fuori legge, volevo che lo si sapesse. Qui finisce il mio intervento, grazie. Ciao. Andiamo, domandiamo. Eugenio Ferrara, no, era quello di prima. Mario, Reggio Calabria, vai Mario. Ma che Mario, io sono incazzato come una bestia, porca puttana della miseria. Perché? Io mi riferisco al comparto scuola e a quei cialtroni di merda handicappati che parlano. Calma, chi sono handicappati? Non insultare gli puttana, silenzio! Che guardi, deportazione, parlano di deportazione di tutta quella gente meridionale, io sono da Reggio Calabria. Di deportazione mancano di rispetto, che non sanno manco cos'è la deportazione, ma sono dei cialtroni maledetti e che non sanno cos'è il lavoro, non sanno di voi. Stai parlando di quegli insegnanti, stai calmo, stai parlando di quegli insegnanti che rifiutano il trasferimento in un altro. Sì, signore, vuol dire che sono dei cialtroni, vuol dire che stanno col culo pieno, questo. Vuol dire questo, che è gente che non ha bisogno di lavorare, perché io che so, mi occupo di sanità, io mi sono fatto un culo così da Reggio Calabria a trasferirmi a Monza per pagare 720 euro di casa al mese più 80 di box, eppure io mi sono trasferito e ho lasciato moglie e mio figlio 15 anni fa. Questa gentaglia che non si vuole spostare vuol dire che hai il culo pieno. E poi questa gentaglia, questa è l'Italia di merda, è un'Italia di merda. Cruciani, perché a gente tipo che insegnanti di sostegno, a volte anche con un anno, 2 anni soli di servizio, li regolarizzano a migliaia. A noi della sanità ci fanno penare. Vabbè, adesso non ci facciamo concorsi. Vabbè, d'accordo. Adesso hanno regolarizzato quelli, secondo me un errore, quelli della scuola che però potevano fare cause, eccetera, eccetera. No, migliaia, credimi, gente cialtona che io ho visto di Reggio Calabria, che con il fatto di fare gli insegnanti di sostegno con un anno e mezzo solo di servizio nel la loro vita, ora li regolarizzano. Aspetta, fermo là. E rispondi, su, dai, rispondi. Vodafone, servizio di segreteria telefonica. Allora ragazzi, andiamo con la conclusione, vai. Mauro da Firenze, Mauro. Buonasera. Sentivo prima la conversazione in merito alle parolacce, eccetera, eccetera. Sì. Io ieri sera ascoltavo la trasmissione, avevo mio figlio di 8 anni in macchina, che adesso sta ascoltando in cucina. Avete usato delle parole tipo cunilingus, sì, e prostituzione. Beh, ecco, prostituzione è difficilmente. L'ho spiegata, quella sono riuscita a spiegarla in maniera molto semplice, sì, e basta. Sono donne che si fanno baciare a pagamento. Però cunilingus è difficile, sta ascoltando anche mio figlio. Sì, sì. Come si fa a spiegare una pratica, una pratica sessuale? Sono un bambino di 8 anni, cioè mio figlio, io non ascoltiamo. Ma non c'è bisogno di spiegare tutto, però. Non c'è, no, bisogno di spiegare. Io ho un bambino che mi chiede le domande. Fai bambino che fa domande e mi chiede che cos'è. E dici non lo so. Dici con una cosa da due, no? Dici non lo so, no, oppure non lo so. Chi ha capito della prostituzione? No, la prostituzione, scusa? Gliela spiegata in un modo. La prostituzione, come gliela hai spiegata la parola prostituzione? Che sono donne che si fanno pagare per farsi baciare, sì. Per farti dare l'amore. Chiamalo dalla cucina, chiamalo. Qua stiamo mettendo i figli. No. Milo, vieni qua. Milo. Milo, 8 anni, va in quarta elementare. Progress. Allora, il punto fondamentale è uno. Che cos'è che ti ha chiesto? Che cos'è il cunnilingus? Mi ha chiesto cos'è il cunnilingus. Allora, ieri sera eravamo in macchina, tornavamo dall'ufficio. Sì. Perché con la crisi e tutto non posso mandare centri estivi, me lo porto dietro. Eccetera, eccetera. Ascoltiamo la zanzara. I miei figli ascoltano la zanzara da quando è nata, praticamente. Lui c'ha 9 anni. È un bacio, un bacio intimo tra uomo e donna? Oppure un bacio sulla, un bacio dell'uomo sulla patata della donna? Non lo so, una cosa del genere. Grazie, perfetto. La si può spiegare in questo modo? Benissimo, grazie. Un bacio dell'uomo sulla patata della donna? Se è difficile spiegare. È un bacio dell'uomo sulla patata della donna. Capito? Okay. A meno che non sappia che cos'è la patata della donna, però quello lo che sa, lo sa. Un bacio dell'uomo, che cos'è, come si fanno i figli e tutto il resto. Un bacio però dell'uomo sulla patata della donna, appunto, e basta. Un abbraccio più forte, che se uno non vuole entrare nel dettaglio, eccetera, eccetera. Ecco, abbraccio più forte è anche bello. Va bene, okay. Ti abbraccio. Grazie, ciao. Per l'uso dell'italiano, grazie. Ciao Mauro. Luca, ti saluto, ciao. Ma Mauro numero uno, ha dato una risposta a quelli che vogliono mettere i braghettoni, ha spiegato che questo programma ora ha una funzione educativa. A presto, ti richiamo presto, ciao, a lunedì 18:30, ciao. Non è, tu sei uno stronzo, non è una follia, stiamo morendo, testa di cazzo, dimmi che cazzo stai facendo per gli italiani, merda! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8:00. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ma perché tu non ti fai i cazzi tuoi? Radio 24. La passione si sente.